ci vediamo in tribunale, continua. Continua che ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale per quello che hai detto. Io non ho capito una ci cosa. Ci vediamo in tribunale, cosa c'entra? Pezzo di merda. Ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale, vediamo quanto rido. Ti porto via tutto. Fosse vero, ti porto via tutto. Ti porto via tutto quel poco che hai. Tutto quel poco che hai, brutto pezzo di merda. Schifoso. Ti porto via tutto, infame maledetto. Maledetto. Maledetto. Che tu sia maledetto. Maledetto per quello che hai fatto. Schifoso. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Io posso fare il delivery che sono proprio, lo faccio per i cinghiali. Passano alla mattina, i cinghiali mi danno, dice mi prepari 10 fettuccine? Cioè io sto a 30 km da Todi, a 30 km da Orvieto, io non sto dentro le città come Roma, certo. Firenze e Bologna, ma come me ce ne sono altri. Allora vedremo quanta gente ci sarà nei ristoranti e poi a quel signore lì lo vorrò portare lì dentro per vedere quanti ristoranti Giacalone, saranno Giacalone, così. Lo facciamo faccia, venire a Baschi, faccia, poi a vedere. Si faccia portare un bicchiere un d'acqua. Un attimo, allora sì, io non ho bisogno di un bicchiere d'acqua. Un attimo, vi prego. So la vita, lei, quello che ho fatto io, ma neanche se la ma allora, mi stai un attimo, lei sia fuori, capito? Posso, metto, faccio, ma lasci perdere. Metto una pausa con sotto corona. Ma no, tu e sei poi matto, no io, tu allora, sei fuori di testa. Un attimo. Ma chi ti ci ha vi chiamato sani, lì vi sani, a fare un attimo il coglione? Allora, Paolo. Allora, Paolo. David Natania da Casa Parenzo. Lei è stato apprezzato anche da Naomi Campbell, ho letto, quindi insomma non è da tutti. Dai Fazio, non cominciamo a sfottere, via. Cari amici, buonasera, mi sono messo le cuffie, spero che mi sentiate. Se non mi sentite, datemi un segnale che capisco che c'è qualcosa che non va nella nostra diretta streaming. Benissimo, mi state sentendo. Tutto questo parleremo con i nostri ospiti, avremo Matteo Salvini, avremo Vittorio Feltri, il professor Grau. Matteo! Fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri e mi scopo Giusy Ferreri. Dico che è uno schifo, nel senso che è una vergogna che tutto sia ormai cominciato a partire, no? Mentre la Chiesa non è mai stata fra le priorità. This is what you get. Tu sarai con me in paradiso oggi e gloria a Dio. Via! Da questo canale. Nicolas mi dice la canna da pesca infilala nel culo. Take it to your mother. Salvini, ma lei fa i bocchini. È una cosa incredibile, veramente anche direi indegna, sì. Cosa? Sì, io vedo molto negativo. In collegamento da Via Monterosa, sempre qui presenti, vivi e vegeti, applauso al sottoscritto. Ormai a quasi 60 giorni siamo qui a trasmettere in diretta da questa sede, finora risparmiata. Tocchiamoci i cabasisti, toccatevi anche voi nel più profondo delle vostre viscere, toccatevi anche voi nel più profondo. Con un collegamento sempre incerto, non si capisce perché, da un mesetto circa, forse anche meno, dal bunker del Mossad, costruito appositamente dagli uomini insieme anche allo Shin Bet, possiamo dire una collaborazione Mossad Shin Bet, in via V. Quartiere Prati a Roma. Aggiungiamo una lettera al giorno, aggiungeremo David Parenzo, eccoci qui. Buonasera, buonasera cari amici, permettetemi di aprire questo brevissimo collegamento facendo semplicemente un grande saluto a tutte le maestranze di Radio 24 che continuano a lavorare in defessi nonostante il Covid-19 e nonostante Giuseppe Crociani. E un caro saluto anche a tutta la Confindustria. A tutta la Confindustria che ovviamente ci permette di andare stranamente, io continuo a dire stranamente, in onda, e mi auguro che qualcuno nell'immediato futuro prenda qualche provvedimento. Comunque buonasera a tutti e iniziamo, tiriamo sulla Claire. Oggi c'è la fase 2 e anche per noi c'è la fase 2, tiriamo sulla Claire, vediamo oggi come va, vediamo se è il caso di rimanere aperti a lungo o se invece è il caso di chiudere questa trasmissione. Io sono per il lockdown, ovviamente, per chiudere per il lockdown della zanzara. Senti, a proposito di lockdown, secondo te c'è da toccarsi i coglioni questa mattina quando uno apre il quotidiano Libero, il tuo amato quotidiano Libero, e leggere un titolo, come dire, sparato: il virus a giugno sarà morto, così? C'è da toccarsi ancora una volta. Ma sai, guarda caro, a pelle oppure no? Cioè, questa è l'indicazione. Tendo, diciamo, nel 99.9% dei casi a non credere alle profezie del quotidiano Libero. Primo elemento, questo è il primo elemento. Se parli come Capanna, il primo elemento. Il primo elemento. Tendo a non credere a quello che scrive quell'autorevolissimo quotidiano con il cavallo alato nella testata, che sta a significare che le notizie volano via da quel giornale, se ne vanno. Secondo, generalmente porta sfiga, quindi è meglio non dire nulla di tutto questo. Parenzo dice sempre cose intelligenti, lo attaccano sempre, ma dice sempre cose molto intelligenti. Allora, intanto facciamo subito una prima notazione, un primo appunto, prima fotografia. Aspetta, mi hanno scritto, non hai ringraziato la 7, gravissimo, mi hanno appena facciamo scritto. Facciamo subito una prima fotografia, un primo flash. Ringraziamo la 7 subito. Va bene, ringraziamo pure i maestranze. Mi hanno scritto subito. Facciamo subito un primo flash, una prima fotografia. Sì. Per la pressione mediatica esercitata da codesta trasmissione dal mondo intero, dal mondo dell'internet, dal mondo del web, il nostro amico David Parenzo oggi era in collegamento con la trasmissione Tagadà, non più dalla sua terrazza, dalla sua lussuosa terrazza romana, bensì sottoposto a critica, a pressione mediatica e indietreggiato. Ha scelto, come dire, il piano B e si è attovagliato, direbbe qualcuno, nel suo comunque lussuoso salone. Voglio semplicemente una darvi poltrona. Questa ero no, seduto su una semplicissima il lussuoso poltrona, salone romano, ma non si vedeva nessun salone. Sì, nessun si vedeva salone. Una sala dove c'era tra l'altro un golfino Ralph Lauren. Posso dire un golfino Ralph Lauren? Ma state lì a farmi i conti in tasca, ma cosa si volete? Si è visto benissimo. Ma tutta roba un golfino Ralph Lauren. E tra l'altro dietro ho notato, questo do un'avvertenza ai signori rom in giro che c'è, ho notato un quadro secondo me espressionista modernista. Io l'ho notato, andate a vedere. Mi sembra dal valore di 4-5 milioni di euro. Non diciamo corbellerie per cortesia, dai, che dopo sempre dietro c'era una mascherina appesa, ho visto una mascherina appesa, per motivi istituzionali, una mascherina appesa e una bottiglietta di amuchina per far capire che in quella casa le regole vengono rispettate. Questa una cosa d'uso e consumo dei media, piccoli segnali, uso e consumo dei media, tutto arredato a uso e consumo dei media. Esatto, incredibile. Che coglione, sei veramente un coglione, sai. Rinnovo l'appello alla Confindustria a chiudere il lockdown della zanzara, aprire il paese, aprire le fabbriche, ma chiudere la trasmissione. Ragazzi, però nulla è peggio di quello che ho sentito dal ministro dell'istruzione. Io dico, ragazzi, non è possibile. Allora, in molti paesi le scuole sono un argomento che non interessa molto gli ascoltatori della Zanzara, che vogliono parlare di altro, molto, divertirsi. Perché è pieno di genitori che ascoltano la trasmissione. Allora, in altri paesi organizzano il rientro a scuola, alcuni. In Israele uno degli stati più civili del mondo, con una certa metodicità, cioè prima quelli, poi gli altri, classi di un certo tipo, eccetera. In Italia c'è una signora, chiamasi Azzolina, ministro dell'istruzione, che senza consultare nessuno, dicendo pure che non è una cosa ufficiale, sì, ho detto un'ipotesi, ma quali? Non abbiamo bisogno di ministri che danno ipotesi, che ci parlano di ipotesi. Dice a settembre metà a casa e metà in scuola. Ma ragazzi, ma di cosa cazzo stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Mamma mia. L'idea è che metà studenti vadano per metà settimana in classe di Visu e l'altra metà collegati da casa a seguire quello che l'altra metà della classe fa in classe in presenza. A me ha ricordato, non solo a me, naturalmente la biscuola, questa biscuola, no? Cioè la scuola a casa e la scuola in classe, la bizona del mitico Banfi, la bizona Auronzo Canà, di Auronzo Canà, ragazzi, certo, una cosa certo. Veramente vergognosa, dai. L'idea è che metà studenti vadano per metà settimana in classe di Visu e l'altra metà collegati da casa a seguire quello che l'altra metà della classe fa in classe in presenza. Mentre i 5 per esempio della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedono e così viceversa. Allora la gente pensa perché c'ha 5 giocatori in più, invece no, è perché mentre i 5 vanno avanti gli altri 5 vanno dietro e durante questa confusione generale le squadre avversarie si diranno oh, che sta succedendo e non ci capiscono niente. E nemmeno noi. La roba, dai. Questi sono i ministri che sono in Italia. D'altra parte, ma non è perché donna o uomo, è uguale, ma sto parlando delle donne perché, ma ti pare normale che in questa situazione ci siano delle senatrici, credo del Partito Democratico, forse anche dei 5 Stelle, non lo so, un gruppo di senatrici che fanno un appello al Presidente del Consiglio, a parte che parlatevi al telefono invece di fare gli appelli, no? Alzi il telefono e lo dici, no, l'appello, questo. Ma che roba è? Cioè fai l'appello, si fa anche un momento alzi pubblico, il telefono, giusto. Alzi il telefono e parli. Comunque vabbè, sono senatrici, non è che stanno in Groenlandia. Cioè sono lì, cioè al Senato, hai i numeri di telefonino, chiamatevi. Comunque un appello. Ma ho capito, ma l'appello pubblico è uno strumento politico. Ho dai, capito, ho capito. Allora, delle senatrici che fanno un appello per mettere più donne nelle task force. Sì, e Conte che dice, mi ha molto colpito questa roba qua. Cioè prima ha nominato le task force giustamente pensando alle persone che voleva lui. Poi si è accorto di non avere donne, queste fanno l'appello e lui dice, beh, hanno ragione. Ma che roba è? Già le task force sono inutili. In più adesso abbiamo anche le quote rosa all'interno delle task force. Siamo una barzelletta, dai, una barzelletta. In questo marasma generale, poi vi dirò le notizie del giorno assurde, quelle che ho letto, le più incredibili. Hai ragione, però io ho solo un'obiezione da fare, che in realtà la mancanza di donne si vede nell'approccio alcuni temi, come quelli della scuola. Ma quale approccio? Perché i bambini sono spesso 80% carico delle donne, perché le donne sono a casa, cioè, purtroppo. Qui c'è solo una mancanza di altre cose. Il grande tema politico è questo qua. Sulle donne pesa e grava il mandare avanti la casa, la famiglia e i bambini. Questo è il tema. Chi sei? Questo è il tema vero, politico, se vogliamo affrontare. Ma cosa sei diventato? No, ma è vero, sei il manutengolo di Brusaferro, sei il lacchè di Brusaferro, così. Cosa c'entra Brusaferro? Allora, in tutto questo marasma si erge naturalmente la statura enorme, poi può sbagliare anche lui, del governatore del mondo De Luca. L'abbiamo visto in diverse situazioni, naturalmente. Partiamo dall'ultima. Da Fazio, si sentiva anche un po' a disagio da Fazio, perché da Fazio tu vai e perché sei comodo, perché non è che ti incalzerà il signor Fazio. Signor Fazio, ci fosse anche il signor Hitler da Fazio? Fosse anche ospite Hitler? Ma non bellissimo. Credo proprio. Sì, metti, non credo Hitler, proprio. Ospite, non credo proprio. Senta, signor Hitler, ma lei, non però, credo proprio, lei direbbe, lei qualche piccolo errore l'ha commesso, no, direbbe signor Fazio. Non è lei così. Qualche piccolo errore? No, sì, no, come no. No. Direbbe anzi, così, lui ti è giuro. Un grande e vero pur antifascista. Di invitare, ma si, ma lascia perdere l'antifascista. No. Pur no, di invitare Hitler, dice Hitler, no, giustamente, ma no, è una tecnica. Hitler invitato là, bellissimo. Hitler è seduto, signor Hitler, buonasera, come va? Come va in Germania? Beh, sì, facciamo qualcosina in Germania. Stiamo facendo dei forni crematori. Ah, interessanti i forni crematori. No, così. Non direbbe mai. No, quello sei tu che dice grazie, un'altra telefonata. Quello lei, sei tu, aspetta, che lei, c'è uno che chiama e dice lei uno pensa, chiama e dice ma io sono nazista. Ah, bene, grazie, altra telefonata. Quello sei tu. Ma lei pensa che stia commettendo quella roba. Lei pensa che stia commettendo qualche piccolo errore nella Germania? Beh, sì, adesso noi forza. Beh, grazie, arrivederci, grazie, applausi. Questo. Comunque De Luca, vai, De Luca da Pazzi. Vi è qualche aspetto delle ordinanze nazionali che io ho valutato, diciamo, leopardiano, diciamo, molto poetico. Questo ritorno agli affetti stabili, come ho letto, veramente è una cosa leopardiana. Cioè è chiaro che perché lei uno, scusi se glielo, se glielo dico, tutto, però perché questa è un'affermazione poco romantica. Invece io penso che gli affetti stabili o instabili deve prevalere sull'aggettivo il sostantivo. Gli affetti sono affetti. Assolutamente sì, io sono favorevole a tutti gli affetti. Sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da frataccione, abbia molti affetti stabili in giro per l'Italia. No, guardi, io ho molti no, però ne ho tre che domani effettivamente raggiungo. Mia moglie e i miei figli, che non vedo da due mesi, onestamente domani vado. Siamo tutti nella stessa situazione, ma non tutti sono come lei, ci saranno molti che andranno a raggiungere affetti. Stupenda, devo dire, anche lei avrà degli affetti stabili in giro. No, degli ma perché fratacchione? No, perché è un grande elogio del fatto che uno non è che c'ha solamente un affetto stabile. Ci sono tanti affetti stabili uno può avere, no? Un amico, una cosa. Io ancora questa cosa degli amici mi sta sui coglioni, questa roba qua. Uno ha un amico, non può andarlo a trovare in sicurezza. Uno ha una seconda casa e non può andare in questa seconda casa in sicurezza senza rompere i coglioni a nessuno, senza infettare nessuno. È vero che oggi a Napoli alla stazione hanno trovato un po' di positivi con febbre che tornavano giù, ma sono controllati. Ma è bellissimo, no, a Napoli. Un grande show, ma naturalmente. Che parte da Milano, seguirlo con la telecamera, dovevano seguirlo, dai, tutto malato, cioè, tutto in diretta, questo è vero. E non l'hanno fatto, ma non ci sono idee nel servizio pubblico, avrebbero dovuto prendere una persona molto molto malata, qualora non si fosse trovato in libertà, addirittura staccarlo dalla rianimazione, naturalmente, da Milano, staccarlo, naturalmente, metterlo naturalmente, sul treno, dai, che la TV è spettacolo, non esiste etica, metterlo naturalmente sul treno, tutto pieno di telecamere, tutto malato, sudato, naturalmente claudicante, e salire lì il grande viaggio da Milano a Napoli, naturalmente. Questa è la televisione per raccontare la realtà. Ma ho capito, il resto, dai, il malato. Ma è successo, il malato sul treno non ha le immagini, dai, lo organizzi naturalmente, siccome è accaduto è verità. No. Ho capito, cioè devi prendere uno malato di Napoli a Milano e portarlo a Napoli con la redazione, ma bastava un attimo selezionare negli ospedali di Codogno, andare un attimo in giro, vedere un attimo, individuarne uno che fosse naturalmente televisivo, no, non uno che balbetta naturalmente, oddio, uno che parla anche pure abbastanza un malato, bene naturalmente, un malato televisivo. È televisione, di cosa stiamo parlando? Dai, che se no non funziona, vi lamentate che i format non funzionano, dai, io li ho tutti pieno di format naturalmente. No. Noi, Alessandro I, al secolo Alessandro Meruzzi, primate della Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala, antico orientale. La Zanzara. Eccolo. Oggi niente Terrazza, oggi sta nel suo salottino lussuoso e confortevole. A Salvini piacciono i piselli. Oh oh oh, battutone, sì, io adoro. Allora ragazzi, poi c'è un signore. Io in questa trasmissione, sapete, parlo poco del mondo del pallone, di quello che sta succedendo, la ripresa del campionato, eccetera. Sono avvelenato in realtà, per i troppi ostacoli che si mettono alla ripresa del campionato. Ma c'è un signore che vuole governare la situazione. Vediamo se la governerà lui fino in fondo oppure verrà commissariato in questo ruolo, che è il ministro dello sport, che certamente ha un ruolo importante. Speriamo che qualcuno, no, gli faccia cambiare idea, perché fosse per lui, diciamoci la verità, questo Spadafora, questo Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, uomo potente nei 5 Stelle di oggi, molto vicino, pare, al presidente Conte e anche a portavoce di Conte Casalino, naturalmente, sono tutti insieme lì a governare. Signor Spadafora, ministro dello sport, scrive. No, io vi leggo, perché è abbastanza incredibile che un ministro dello sport metta, non dico sullo stesso piano, ma su un piano più basso, il calcio rispetto alla danza. È meno pericoloso la danza del calcio. Senti, il calcio, ministro dello sport, che dovrebbe essere uno attivo, non nel bloccare. No, ma tu sei così avvelenato perché sei della Lazio. No, non c'entra niente. Il vero conflitto di interessi è questo. Ma che per la prima volta vi vedete sfumato tutto, per quello tu allora, e lo Tito siete avvelenati. Leggo cose strane in giro, ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul calcio. Questo scrive ieri. Gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio. E della ripresa del campionato per ora non se ne parla proprio. C'è uno che dice, no, per ora non se ne parla proprio. Mentre in Germania stanno riavviando le cose, ma lasciamo perdere. Ora scusate, ma torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi. Bravo. Palestre, giusto, centri danza, piscine. Bravissimo. Che devono riaprire più presto. Cioè le palestre, le palestre, i centri danza devono riaprire al più presto, il campionato di calcio e gli allenamenti. Bravo. No. Bravo. Ma siete dei buffoni, siete dei buffoni. E basta. Dai, ci sono tanti De Luca. Sport. Tu che fai tanto il populista, ma chi li finanzia questi sport? Trainer, ma chi li finanzia? Ma secondo te chi li finanzia? Che non sai un cazzo. Non ci pensi ma mai. Ma chi li finanzia? Ma chi li finanzia senza ma calcio? Io vorrei che gli tutti amici gli sport che lavorano vogliono nelle palestre telefonassero, chiamate altro che quei miliardari di calciatori, i miliardari vuol far giocare. Dammi De Luca, aprite dammi, le palestre in sicurezza, le piscine. Dammi una siringata di De Luca, ti prego. Dammi una siringata di De Luca. Ma è capitato di trovare gente che faceva footing in mezzo alle famiglie e ai bambini. Non è possibile, non è possibile. Ora, se vogliamo farci una risata, no, non dovete immaginare che vadano a fare footing, no, le immagini della pubblicità televisiva, no, le belle ragazze toniche con i fuso aderenti. No. Quelle cose magari ti riconciliano con la natura. No, io ho trovato vecchi, vecchi cinghialoni della mia età che andavano a correre senza mascherine, con una tuta che arrivava alla caviglia, con una seconda tuta alla zuava, arrivava al ginocchio, con un terzo pantaloncino sopra. Cioè, questi andrebbero arrestati a vista per oltraggio al pudore. Cioè, andate a fare i fatti. Capito, però governatore, uno avrà un anche il diritto di fare quattro passi anche se uno è un po' grasso, no? Cioè, un genio, un genio. Ecco, vedi questa roba qui detta da De Luca a proposito di quello di cui si è parlato nell'internet, naturalmente, perché la gente non sa un cazzo, no? Quello che è avvenuto con Striscia la Notizia, che ha preso un po' per il culo la corrispondente del TG3 dalla Cina, Giovanna Botteri, molto male, ma che molto tolto male, una battuta su una professionista che giustamente ha Striscia risposto la Notizia. Io non devo fare una sfilata, io devo raccontare delle ma cose. Allora questo che cos'è? Non allora sono io questo la notizia, che cos'è? Allora questo che cos'è? Politico, De Luca che piglia per il culo quelli grassi che vanno in giro a Napoli a fare footing. Ma non fa un riferimento a una persona specifica, mentre a Striscia hanno fatto riferimento a una persona specifica. Hanno detto che quella non se lava i capelli e chi se ne frega. Ma che ne sa, ma che gliene frega ma loro? Ma sì, che ma ne è Striscia sanno la Notizia, non è cosa, è Striscia la Notizia. Appunto, ma che vuol dire? Ma è Striscia la Notizia, milioni di persone che guardano e hanno sputtanato una delle più grandi professioniste del servizio pubblico italiano. Tutta pubblicità, ma che dici? Non si parla da tre giorni sull'internet. Brutto, un'aggressione a una donna così, una professionista che sta in Cina peraltro, a rischiare la vita in Cina. Posso dirti che si rischia più la vita in questo momento si rischia più la vita in Lombardia piuttosto che a Bergamo, piuttosto che non lo so, in Cina. Però sì, poi c'è la Hunziker che fa le battaglie sulle donne, che conduce, ma quella conduce, mica ha fatto il servizio, era lì a Striscia, cioè non è che deve, c'è uno che sta là e dice no scusate, critico il servizio. Poi uscendo poteva dire non mi è piaciuto questo attacco a una giornalista che non, si laverebbe i capelli, che stupidaggine, fermarsi all'aspetto fisico, le cose ormai sta diventando ti posso far leggere una cosa, anzi far ascoltare una cosa, Sgarbi no, che dice di aver fatto una lettera insieme a Clint Eastwood, ti giuro, a Clint Eastwood. Ma è uscito, me l'hanno detto. Beh, sì, Clint Eastwood e anche Massimiliano Lenzi c'è, però sì, da Sgarbi anche a Clint Eastwood, sì, a Lenzi anche, credo nostro, anche qualche l'autore, tuo amico tipo Lutwak eccetera, ma sì Henri Lévy eccetera. Senti questa cosa firmata da Clint Eastwood. Ma è vero che che l'ha firmata Clint? Ma non lo so, immagino di sì perché è un libertario. Ma non può neanche smentire però ma non lo so, sì, Clint. Penso che l'abbiano coinvolto in qualche modo. Non è che possono mettere la firma falsa, succede qualche volta, Non può mai essere il governo a dirti chi è tuo parente. Sono potentemente anticostituzionali e ho fatto una lettera che ha firmato anche Bernard Henri Lévy e Clint Eastwood al Presidente della Repubblica, che parlerà nei prossimi giorni, per dire che queste violazioni non sono tollerabili perché violano diritti elementari. L'effetto stabile poi può nascere dal colpo di fulmine. Tu hai un colpo di fulmine per cui ami molto di più una persona incontrata 3 ore fa che una che sta con te da 2 anni, perché sì, il colpo di fulmine è un effetto stabile, è quello di Dante, è un sentimento, la letteratura in cui la poesia è un sentimento inteso, e chi me lo deve sindacare? Un vigile urbano? Quindi è chiaro che io ti amo, ti vengo a prendere e ti porto con me al mare. Beh, questo mi pare che non faccio la grinza, questa roba qua. Cioè, questo diritto insindacabile, ti amo, vengo da te e ti porto al mare, non è che può arrivare qualcuno, cioè, tu non rompo il cazzo a nessuno, sono isolato, non mi mischio a nessuno, non vado a non faccio le orge con 100 persone sulla spiaggia di Riccione. Come si fa a non dare responsabilità? Ci trattano come dei ragazzini, dei bambini ancora, con 1000 prescrizioni. Quello che è successo con 1000 prescrizioni. A Napoli lo dimostra, purtroppo, non per colpa dei napoletani. Ma quelli che sono infetti non sono marchiati come se ci avessero qua la bolla dei malati di peste. Però, scusami, hanno fatto una cosa irresponsabile. Quei malati che si sono messi so in viaggio malati, da Milano sapevano, a Napoli. Magari, ma che ne sapevano, no? Quelli? Sono arrivati che avevano, uno c'era 38 di febbre, 37 e mezzo di febbre. Scusa, che non sa. Che sì, la febbre. Ma non so, magari non sa quando ha la febbre. Uno non lo sa. Dai. Non lo sa. È incredibile. Tutolo, il mitologico Tutolo, sindaco di Lucera. Senti com'è incazzato. Senti al massimo, oggi al top Tutolo. Ora scordiamoci i controlli. L'unica cosa che potranno controllare è a fare gli spiacopie, cioè a vedere se i fidanzati si avvicinano a un metro di distanza. È l'unica cosa che potranno controllare. Per il resto è tutto ammesso. Cioè, tu trovi il posto di blocco, mo vi imparo un segreto, va bene, ok? Vi ferma la pattuglia dei vigili urbani, dove stai andando a comprare il gelato? E me lo vado a mangiare a casa, non vi possono dire nulla. Quindi è inutile che dite quanta gente c'è in giro, quanto ce ne sarà in giro. Avevate dei franumi su quanta gente in ospedale, quanta ce ne sarà negli ospedali. Chi l'ha detto? Ricordatevi queste parole. Ma che ragazzi, ma questi casi sono uccellacci del malaugurio. Ma perché ci dovrebbe essere tanta gente in ospedale? Ancora oggi, Ricciardi. Tu senti, ti faccio un elenco come al solito delle cose che ho ascoltato oggi. Ricciardi è uno dei guru italiani, uno di quelli che decide, uno di quelli che sostanzialmente ci dice possiamo andare di qui, possiamo andare di là. Lui studia, fa dei report e poi la politica decide. Allora, lui fa dei report. Se ci sono dei dati negativi, si richiude tutto. Ma non sei tu a decidere, certo. Tu sei consulente. Sì. Richiudiamo tutto. No, non sei tu che decidi, non sei tu che dici richiudiamo tutto, è la politica. Poi invece c'è un altro, Bassetti. Tu senti, un infettivologo. Il virus ha perso velocità di trasmissione. Da tsunami si è trasformato in un'ondina. Tra metà maggio e inizio di giugno finirà. In Italia nessuno è morto per il coronavirus. Questo lo dice un infettivologo di Genova, Bassetti, molto ascoltato. Dall'altra parte abbiamo Pregliasco, che dice che forse a maggio del 2021 gireremo ancora con la mascherina. Ma tu ti rendi conto della follia? Qui c'è uno infettivologo, Bassetti, che dice che il virus ha perso velocità, a giugno è tutto finito, e un altro che dice che nel 2021 ancora stiamo con la mascherina. Ma di cosa parliamo? È un'eterna zanzara, è tutto contraddittorio. No, perché, ma è così. Andrea dalla provincia di Varese, dai. Ciao Giuseppe, senti, ora mi dai 2 minuti perché sono nero. Allora, io praticamente sono un ragazzo siciliano che 2 mesi fa, quando c'è stato quell'esodo verso sud, io sono rimasto qua. Sono rimasto e ho criticato pesantemente i miei, diciamo, compaesani che sono scesi, definendoli codardi, definendoli egoisti. Ti posso dire una cosa, dopo 2 mesi hanno fatto bene. Hanno fatto bene, perché io oggi vorrei, avendo la possibilità, anche valutare di scendere. E non so se posso scendere. Ma che puoi scendere? Perché non puoi scendere? Certo, fermo, ti dico subito. Se hai la residenza, se hai un motivo, puoi scendere. Sì, noi abbiamo un DPCM che dice che tu ti puoi muovere sempre solo se hai la residenza. D'altra parte c'è un'ordinanza del 30 aprile della Regione Sicilia, per cui fino al 18 maggio la Regione Sicilia è chiusa. E infatti la piglia dalla Comusumeci, non è che te la puoi pigliare io me la prendo con tutti, me lo prendo con lo Stato, perché c'è un'incoerenza che non si capisce. Capito, amico mio, sei in provincia di Varese, non è che stai per morire, cioè stai a casa, a un certo punto quando sarà possibile pigli un aereo e allora facevo l'opportunista come gli altri che sono scesi 2 mesi fa. Oggi ho parlato, te la posso dire una cosa, Giuseppe? Ho parlato col sindaco di Siracusa, città dove io risiedo, gli ho esposto questa situazione, ma la residenza potrebbe non bastare. Potrebbe, che cazzo significa potrebbe? Ma mandalo a fare in culo, dai, fermo là. Il segnale orario vi è offerto da Zazà, la scamorzina di Brazzale tutta da mordicchiale. La zanzara. Secondo voi? Mia moglie c'ha 23 anni. Vabbè, voi quanto me ne daresti? Come si dice? Amore, minchia, mi confondo. Quanto anni mi avrebbe dato? L'avranno detto alla Zanzara, perché dicono cose inesatte. Luciani, ho iniziato a far ascoltare la Zanzara, la mia ragazza in quarantena, ma si è innamorata di Parenzo, mi devo preoccupare? Lavati i capelli, sudicio. Luciani, in realtà sei bellissima, io ti scoperei anche così. La qualità dell'audio è pessima. Saluto Barbara, saluto Jack Paolucci con una riflessione importante. Matteo fascista di merda, con due M, analfabetello. È normale. Napoli non mollerà e sono convinto che vincerà sia la battaglia sanitaria, oggi San Gennaro ci darà sicuramente una mano, sia la tensione sociale ed economica, e soprattutto impediremo alle forze del male di riconquistare terreno nella nostra città. Ci affidiamoci anche a San Gennaro, che vi devo dire? Cioè, San Gennaro, il sindaco di Napoli che si affida anche a San Gennaro per risolvere la crisi sanitaria, eccetera. Ci sta. E lui dice ci sta. Per San Gennaro, anche un laico a Napoli dice affidiamoci a San Gennaro. C'è lui un buon modo dice di dire sta. Adesso. Soprattutto in questo momento. Ogni giorno no, un pretesto. Assolutamente no. Soprattutto in questa situazione in cui c'è da criticare soprattutto il nord e non Napoli. Bisognerebbe dire in quale città è scoppiato un contagio e in quale città è che non è Napoli però. Ma ce l'abbiamo il servizio di Striscia? L'abbiamo tagliato il servizio di Striscia, così l'abbiamo tagliato, mi comunico. Dunque possiamo mandare il servizio di Striscia? Veramente lo dico senza, a me non me ne frega niente della Botteri, di Striscia la Notizia, di Mediaset, di Rai 1, la Botteri inquadrata dalla Cina con questi capelli, che è la realtà poi, no? La realtà. Però voglio... Ma quella è sul fuso orario ma italiano. Va benissimo, è ottima. Ma lavora in Cina, ma io dove non c'è contesto, un altro fuso orario, quindi quella dorme 4 ore al giorno. Ma chi se ne frega, ma che ne sai tu? Ma che ne sai tu che dorme 4 ore al giorno? Che ne sai tu? È sempre collegata negli orari. Allora, tu sai dov'è la Cina? Sì. Sai che ore sono in Cina rispetto all'Italia? Lei è sempre collegata in tutte le trasmissioni a tutte le ore del giorno e della notte, il che sì. Vuol dire che siccome ma è in diretta, bene, ma nessuno dice che non lavora durante, ma nessuno ma dice che tutto, non lavora e, ma e va quelli bene. Stanno a guardare capello, come si dice ma tecnicamente, stai notizia, a guardare capello, ma è Striscia la stai notizia, a guardare capello. Cazzo. Ah, quindi stai dicendo che è un programma schifoso, stai no, dicendo che è un programma satirico, non schifoso, ma satirico tanto, parlano anche di satirico. Cose serie assolutamente. In questo caso hanno preso per il culo in maniera assolutamente, come si sente anche dal commento poi anche di Gerry Scotti, della Unzi, dopo si è dovuta giustificare, ma sì, ma però sentiamo i giornalisti che si ribellano, che si ribellano, sentiamo tutto. Cosa vuoi sentire, cosa vuoi risentire? Risentiamo che risenti? Allora amici, molti spettatori ci hanno segnalato una piacevole sorpresa del mondo del telegiornalismo, vediamo di che cosa si tratta. Non ci posso credere che sia piacevole. Nei giorni scorsi Giovanna Botteri era stata presa di mira da chi aveva notato la sua immutabile mise. A ogni appuntamento la corrispondente dalla Cina infatti sfoggiava il medesimo abito nero, attirandosi critiche e ironie. Ebbene, l'altro giorno giorno la giornalista in prima linea ha voluto stupire tutti e ha preso una grande decisione. Quasi quasi mi faccio uno show. Sì, si è presentata agli spettatori del TG1 più bella e più superba che pria. Ecco, ad un tratto la sua chioma curata e vaporosa, in risposta a tante frecciate velenose di cui evidentemente ne aveva fin sopra i capelli. Così nel tuo importante lavoro e non badare a chi sta a guardare il capello. Esatto, soprattutto te lo dice Jerry. Io cosa dovrei dire? Io sono sempre a posto, sono sempre pettinato. Ragazzi miei, hanno sollevato un piccolo caso, perché poi la gente ha altre cose a cui pensare, naturalmente non i capelli. Beh, della Botteri, certo. E non i servizi di Striscia Notizia, né le risposte social, né l'internet. Un caso inutile. Tra l'altro mi è sembrato di capire che addirittura chi l'ha fatto voleva difendere la stessa Botteri dagli attacchi che subisce per i capelli, può mi essere, sembra di capire. Per cui essere, di però, body shaming, sessismo, andate a fare in culo. Non si può nemmeno parlare. Tu vai in televisione con certi capelli, va benissimo. Figuriamoci, io stesso sono, come sai, è come se io mi incazzassi se qualcuno mi dice che non mi lavo i capelli. Ma che ti pare che io mi incazzo? No, ma tu ne fai una scelta ma stilistica, ma l'ho detto qualche volta. Racconto dei capelli sporchi. Una scelta stilistica, tutto bello sporco. Dai, che fa ascolto, tutto sporco. Lavati i capelli, sudicio. Benito da Roma, dai, Benito. Mi rimandate quella là che ha detto che mi vuole trombare? Scusa, quella signora, non so. Ma perché? Rimandate, non l'ho sentita bene, stavo entrando in studio. Crusani, in realtà sei bellissimo. Io ti scoprirei anche così. Toscana, signora Toscana, questa dall'accento è toscana, va identificata questa signora toscana e messa in onda. Ho detto semplicemente messa in onda, messa in onda. Benito da Roma, vai Benito, a te non ti dice bene il nome Benito, Parenzo, non ti marca bene il nome. Benito, no? David, il nome Benito già non... Beh, non ti... è un grande inizio, specie se è nato diciamo tra il 23, tra il 1923 e soprattutto dopo la seconda, diciamo no, se è nato prima del 23 chi se ne frega, nome come... se è nato dopo la seconda guerra mondiale diventa un po' un problema. Qualche sospetto c'è, Come una volta sono andato in Germania qualche anno fa e a un certo punto in Germania ho conosciuto, c'era un ragazzo della mia età. Io ho 44 anni, all'epoca ne avevo 38, che si chiamava Adolf. Ecco, questo ti mette un po' di sospetto, amico caro, se tu in Germania dopo la seconda guerra mondiale non si può chiamare Benito. Ma no, sai. Cioè tu per esempio Benito, tuo figlio non lo avresti mai chiamato Benito Parenzo. Posso escludertelo. Io se mai posso chiamarlo Benjamin come Benjamin Netanyahu, potrei chiamarlo Golda Meir. Benito lo puoi escludere. Ti posso dirti che ci sono pochissime cose al mondo. Questa è una di quelle che io ti giuro. Io non giuro mai, ma su questo ti giuro. Tu chiameresti tuo figlio Benito? Scusa. No, perché non mi piace Benito. No, non mi piace. Benito, no, ma non ti piace perché associa purtroppo. No. Una cosa schifosa. Dimmi, Benito, dimmi. Ciao, buonasera. No, innanzitutto volevo dire che in questo nome ce l'ho perché è lo stesso nome che aveva mio nonno, non ha nessun riferimento. E come mai? A proposito di nonni, come mai? In questo periodo i nonni. Comunque. Non ha nessun riferimento a... Vabbè, dimmi, meno male. Volevo dire semplicemente che io sono molto preoccupato perché con la fase 2 che è iniziata oggi e con la riapertura totale o quasi totale che sarà dal 6 maggio, sicuramente i contagi cominceranno a scendere pazienza, ci saranno un po' più di contagi. Pazienza, un po' più di contagi. Importante che non ci siano focolai, importante che gli ospedali non siano intasati. Certo. Pazienza, non è la lebbra, i contagi. La gente muore, lui dice pazienza. Ma non ho detto la morte è un'altra cosa. La morte è un'altra cosa. Vabbè, ragazzi, volete morire in casa? Morite in casa. Volete morire in casa? Volete morire blindati in casa? Volete morire congelati in casa? Resta congelato. Naturalmente Benito magari ha una casa di 30 metri quadrati. Parenzo ha una casa dove può trasmettere un giorno dal salotto e un giorno dal terrazzo. Un giorno adesso ci farei scoprire la cucina. Ci farei scoprire secondo salotto. La prossima volta mi collegherò dal bagno così non mi rompe più i coglioni. Benissimo. Solo che poi non è decoroso per la rete la 7. Benito, essere preoccupato, avanti tutta, con coraggio. Benedetto da Palermo, vai. Benedetto da Palermo. Dimmi Benedetto. Sì, volevo dire due cose. Dimmi. Primo, cioè, sulla fase 2, Ma che governo è? Un governo che fa le stesse misure nord e sud, cioè, è ridicolo. Ieri in Campania, è ridicolo. Ieri in Campania zero, oggi in Sicilia c'è meno dello 0,05% e abbiamo le stesse misure di Milano. No, no, ma è ridicolo, è assolutamente ridicolo, non ha nessun senso logico, e purtroppo hanno deciso così. Di fatto poi non è così, perché ogni regione adotta misure diverse, mi dicono che in alcune regioni c'è il via libera quasi assoluto, c'è una specie di libera tutti, però le misure sono più o meno le stesse. Un'altra cosa, cioè, gli amici però scusami, se il governo dovesse impugnare ad esempio il provvedimento della regione Veneto, l'impugnazione, no, ma vuol dire se andasse contro, allora, non parliamo di, tecnicamente di impugnazione, ma se il governo centrale dicesse no, caro Veneto, non puoi riaprire tutto, hai visto le immagini di Rialto oggi a Venezia? La gente ha bisogno di libertà, mettetevi d'accordo, hanno fatto bene le regioni a farsi i cazzi loro o ha fatto bene il governo comunque a dare delle indicazioni generali? Benedetto, i soliti piagnoni, criticate qualunque cosa. Dimmi. Ok, un'altra domanda: perché gli amici no e i parenti dei parenti che io manco conosco, sì, scusa, perché sono perché sono ignoranti, perché sono incapaci, perché sono incapaci e perché devono mettere questa l'ipotesi, diciamo, più che uno vuole salvare, no, vuole salvare almeno un minimo di, perché diciamo, se allargano a tutti formalmente, allora c'è via libera, però di fatto è così. Cioè, di fatto è così. Io dove sto andando non puoi controllare, no? C'è un affetto stabile, sto andando da mio cugino di quinto grado e si cerca di limitare, l'hai Antonio detto D'Avellino, bene adesso, Antonio D'Avellino. Pronto? Dimmi. Pronto, sì, buonasera, signor Cruciale Parenti. Dimmi, vai. Senti, io volevo segnalare solo questo fattore che buttano le mascherine a terra, quando a terra non ci stanno cestini come quelli contenitori per le fece dei cani. Non so, rivolgiti a Mi Manda Rai 3. Cioè, ma l'abbiamo fatto. Ma rivolgiti a Mi Manda Rai 3, non alla Zanzara. Ti sei rivolto a Mi Manda Rai 3? Vabbè, non fa niente. Mi manda Rai 3, perché sottile, lo hai mortificato? Perché hai mortificato? Ma non lo so, ci sarà qualcuno che butta la roba dove non va buttata, d'accordo? Cosa vuoi da me, Antonio? Sto dicendo una cosa buona, perché sono e se qualcuno c'ha un virus, se qualcuno c'ha qualcosa, cioè quando a terra, tutte parti, sopra in macchine, sì, ma non si faccia più davanti i portoni. Ma dove succede questo? Dove accade? Dove accade tutto ciò? Questo è Avellino, io sto parlando. Avellino, rivolgiti al sindaco, al vigile urbano e digli: guarda, quello è uno zozzone, puliamo di qui, puliamo di là, già striscia la notizia, che cazzo ne so, cioè rivolgiti qui. Se ma qualcuno fatto pure striscia la notizia. Benissimo, ottimo, denunziate tutto, se gente butta i guanti per terra, le mascherine dove non vanno buttate, vanno denunciati. Cioè, poi se non ci sono cestini in giro sono cazzi vostri, quello è colpa del sindaco, non mette i cestini in giro. Antonio, te saluto, ciao. La Zanzara. A mezzanotte un minuto mi metto in macchina e vado a casa della mia ragazza. Gliela leccherò così tanto che mi usciranno i figli già pettinati. Bellissimo, siamo al top. Everything. Allora, so che mi risponderei male come al solito, ovvero non siamo lo sportello del comune, ma il mio problema è urgente. Sabato devo andare con l'amante in motel. Cosa scrivo sull'autocertificazione? Nel senso che non è la mia fidanzata, è l'amante. Siamo, vabbè, sulla stessa macchina, ok, quello la metto dietro, faccio finta di fare il tassista e chi se ne frega. Ma i motel quindi gli hotel sono aperti, va bene, ma in sostanza che cazzo scrivo e che cosa dico alla gente come situazione di necessità o di urgenza? Cioè, non posso scrivere devo scopare, o posso? Grazie. Siete dei bastardi. Ogni volta che qualche mio amico mi chiede cosa sto facendo, gli rispondo sempre con e mi faccio una prugnetta, mi faccio crociare. Siete dei pezzi di merda. Io devo lavorare tanto, la mole di lavoro c'è ed è tantissima, ma io ho così tanta voglia di cazzo che non riesco a fare le altre cose, perché la voglia di cazzo mi fa stare sempre in ansia, mi fa stare sempre in tensione. Io non lo so, finita sta quarantena devo trovare una quadra per lavorare meglio. Devo mettere un ragazzo a casa che ogni 3-4 ore di lavoro mi faccio bombare se non altro per trovare un minimo di concentrazione e massimizzare il mio tempo e le mie energie. D'altra parte, sono questi i veri problemi degli italiani. I veri problemi di moltissimi italiani sono questi. Metti come la Saulino, che uno ha un fidanzato, un affetto, un fuori dalla regione. Sei fottuto, amico mio. Sei fottuto. Sei assolutamente fottuto. Ma ci sono questi casi qui. Ci sono questi casi qui. Vedi il signor Poli. Devi portare pazienza. Ma cosa portare pazienza dopo 2 mesi e mezzo? No, che ridicolaggine. Lo capisco. Vai, pigli un treno in protezione. Vai a casa. Stai 3 giorni, trombi e torni a lavorare. Ma qual è il problema? Questo già si potrà fare tra poco. State tranquilli. Ma qui stiamo. C'è un virus letale. Ma te ne rendi conto o no? Ha messo in ginocchio la nostra economia. Sei il manutengolo di Brusaferro. Sei il manutengolo di Brusaferro. Sei il leccapiedi di Ricciardi. Ma ci sono persone che sono morte per questo virus. E questi qua stanno a pensare che devono fare la fuitina, il bubi bubi con la fidanzata. Il bubi bubi devono fare. Ma dai, ma aspettate. Ma io voglio dire, ma abbiate un minimo. Sarebbe un grande format. Sarebbe un grande format. Grande format. Sarebbe un grande format, Carlo, sarebbe un grande format quello di riprendere i fidanzati che scappano e vedere anche la tromba. Naturalmente anche questa è un'idea, naturalmente, basta che si veda realtà. Io, come sapete, odio quelle trasmissioni fiction, queste cose tutte artefatte, naturalmente, dove ci sono buoni sentimenti, dove ci sono questi virologi che parlano, che dicono, noioso, dove c'è Montalbano, Don Matteo, ancora questi preti su Rai 1, ma avete mai visto voi un prete con la bicicletta? Dai, hanno tutti le limousine i preti, dai, non la bici. Che roba è? Però... è questo Don Matteo che gira in campagna. Ma quale campagna? Hanno delle ville, degli attici, dai, che non è vero. Su. Però era bella quella dei malati che facevano, che partivano da Milano e arrivavano a Napoli. Lavoreremo naturalmente a questo format con naturalmente i nostri grandi scrittori e conduttori, naturalmente col Paragone, naturalmente ne parleremo. Professor Savona, che adesso è alla Consob a combattere le banche, dai, che bravo. Professor Savona, sparito completamente, sparito, l'avete ucciso, eliminato, dai che non va bene, eliminato. Però il format ti porta a strappare un malato, diciamo, dall'ospedale, portarlo nella sua città a Napoli, da Milano a Napoli, ecco, e seguirlo passo dopo passo. Naturalmente sul treno molto bello. Non è male. Sì, bello, potrebbe affidare la conduzione a Brusaferro, naturalmente, questo potrebbe essere una cosa utile, naturalmente. Prendere Brusaferro, strapparlo alle conferenze stampa inutili, noiose, e metterlo naturalmente a condurre un format dinamico e vero e reale. Brusaferro, bellissimo, conduce Brusaferro, dai, forse funziona, dai, forse. No, noi non siamo pronti perché con queste condizioni non riapriamo, assolutamente. Grazie. Mascherine, plessigas, ma cioè noi dobbiamo andare a pagare pure questa roba perché possiamo avere ristoranti. Ecco, io ho 18 dipendenti, stanno una media di 1.400. Stiamo parlando di un settore, non parliamo di lei come soggetto, sì, ma parliamo dell'economia. Scusami, niente soggetti, sono stipendi nazionali, sono stipendi nazionali che facciamo noi. Io ho 3 giorni di riposo settimanale. Lasci perdere. Lei veramente è fuori mercato. Non dica le cazzate, è fuori mercato, per piacere. Senti come si incazza come una vista. Poi, ma perché si arrabbia così? Ambisce perché quella dice, lei non rappresenta, diciamo, tutti i ristoratori più o meno, no? Chiudo, vado a casa, chiudo. Non difetta, cioè, di chiarezza. Che possiamo fare? È chiarissimo. Ma che possiamo fare? Non c'è di alternativa. Altri fanno una scelta diversa. Lui ha tutto il diritto di chiudere, gli altri hanno il diritto di provare ad andare avanti. Sì, lo stanno facendo. Ma quale andare avanti? Quale andare avanti? Ma che sta dicendo? Che non ci sarà nessuno. Vissani, lei è leggermente fuori dai binari. Ma quali fuori dai binari? Scusate, ma che sta dicendo? Un attimo. Le stronzate. Vissani, sono tutti pieni. Vissani, posso fare cucina come parla. Scusate, lascia posso perde, fare una domanda? Ma lascia perde, sei fuori mercato. Allora vedremo quanta gente ci sarà nei ristoranti. E poi a quel signore lì lo vorrò portare lì dentro per vedere quanti ristoranti Giacalone, saranno. Giacalone, così. Lo facciamo venire a Baschi, si faccia, poi a vedere. Si faccia portare un bicchiere un d'acqua. Un attimo, allora. Un attimo, vi prego. So la vita, la vita, lei, quello che ho fatto io, ma neanche se la sbuca per lei sia fuori. Ha capito? Posso? Metto una pausa con sotto corona. Ma no, tu e sei riprendiamo. Matto, no io. Tu allora, sei fuori di testa. Un attimo. Ma chi ti ci ha chiamato lì? Bisani, a fare attimo. Il coglione. Allora, Paolo. Ma perché se l'è presa con l'ottimo Giacalone? Perché? Perché gli diceva Giacalone tutto liberale, elegante. Perché gli diceva Giacalone, che altri elegante. Aprono con tutte le limitazioni. Ma che? Ma di che stiamo parlando? Eccolo ma chi cazzo qua. Ci eccolo. Va al ristorante col plexiglass a distanza? Ristorante socialità, ristorante abbraccio, ti avvicini al tavolo vicino, li mandi a fare in culo, parli, discuti, faccia a faccia. Non ho mai visto nessuno. Dai, Paolo, lei va al ristorante. Tu sei troppo ormai dentro la zanzara. No. Non è che uno va al ristorante per mandare ragazzi, a fare in culo al vicino di tavolo. No, ma dove vivi? Però, ma dove no, però ragazzi, posso dirti una cosa? Allora, è assurdo pensare che i ristoranti possano riaprire in queste condizioni in cui dicono. Assurdo. O si riapre sul serio oppure niente. Chi ci va poi con i divisori, con le cose? Non ci va nessuno, dai, su. Pietro da Parma, dai, Pietro. Ciao, Cucià, buonasera. Dimmi. Allora, no, ho letto sul Corriere, mi sembra, no? Sì, che hai letto? Ci sono, diciamo, dei rientri dal nord, no? I primi rientri nella fase 2, no? Sì, allora... Che ci sono 14 positivi, no? Su 60 tamponi. Sì, su 60 tamponi, in un casello a Napoli, ho trovato 14 positivi su 60 tamponi. Allora? Dunque? Dico... E allora, ma non sono marchiati, se in Italia ci sono 3 milioni e mezzo, come dicono, ce l'ha detto l'altro giorno il Vice Ministro della Sanità, ci sono 3 milioni e mezzo / 4, forse anche di più, di positivi, è evidente che ci saranno dei positivi che vanno dal nord al sud, anche al sud ce ne saranno, vengono testati, quando vengono testati si trovano, ma non sono marchiati col bollo dell'infamia, non capito, è successo. Vanno sì, poi diciamo, trattate le campione, no? Su 60 ce ne saranno altri che sono passati positivi senza che sono stati beccati, no? O ragazzi, no? Se noi pensiamo di poter chiudere questa vicenda senza spostarci, no. Senza vivere, senza riaprire qualche cosa, guarda, è impossibile. Parli, allora, bisogna convivere. No, parli con uno che lavora nel, diciamo, io lavoro nel facchinaggio, no? Ma allora, che cosa vuoi che ti dica? Ci stai dando una notizia che abbiamo letto. 14 positivi su 60 adesso ci hanno riferito in un casello a Napoli. Dunque, che facciamo? Riflessione qual è? La riflessione è che diciamo ho capito il polmone mio me lo gestisco io, però keep calma o no Cruciati, mi Andrea sembri... da Palermo, vai a fare il culo, vai. Andrea da Palermo, vai Andrea, dimmi. Ciao Giuseppe, ciao David. Dimmi. Sentite una cosa, volevo parlare della situazione rimpatri. Allora vi spiego la mia situazione. Io un po' le povere da un anno vivevo in Spagna e in seguito alla situazione del coronavirus mi sono ritrovato senza lavoro. Una settimana fa decido di voler tornare, quindi di rimpatriare. Io sono di Palermo. E sostanzialmente quello che ho fatto è stato contattare l'ambasciata di italiani a Madrid e un po' le povere mi hanno detto: vabbè, ce l'hai fatta alla fine o no? Alla fine ce l'ho fatta, minchia, ma è stato un viaggio della fortuna. Della vabbè, Andrea, ma che vuoi fare? Ormai è così. Ma che c'è? Fammi spiegare com'è successo. Allora, in parole povere, meno detto, cioè quello che ho dovuto fare è stato prendermi un traghetto da Barcellona per andare a Genova. Sì, sì. Io vivevo a Siviglia, quindi mi sono dovuto prendere un treno da Siviglia a Barcellona. Vabbè, poi hai fatto il treno o non so che cosa hai fatto a Barcellona? Sì, a Barcellona, ho dormito per strada. Il giorno seguente, perché il traghetto... Ho capito, ma perché non c'erano aerei diretti? Perché? Per quale motivo? No, allora, per quanto riguarda il sito dell'ambasciata, tutti i vari spostamenti funzionano sì, così. Ma Andrea, scusami tanto, adesso non è che... Cioè, che cosa vuoi dire alla fine? Hai dovuto fare un'odissea, una specie di... Ho fatto un viaggio dalla Speranza per arrivare a Palermo. Quanti giorni ci hai messo? La mia domanda è... Come mai a distanza di 2 mesi, comunque, ancora non sono state fatte delle cose per aiutare... tutti gli italiani che perché è complicato nel senso anche noi siamo italiani, nel senso non siamo delle persone di secondo grado, Cioè, siamo una realtà, com'è che ancora non è stato fatto nulla? Non lo so, Luigi, guarda, Luigi dalla provincia di Perugia, vai, Luigi dalla provincia. Oh, sì? Dimmi. Allora, dimmi. Senti, io ti faccio una domanda, pronto? Faccio una domanda. Fammi stare avanti, pronto? Ma quanto pronto? Tempo è che voi non entrate in una scuola italiana? Non lo so, io perché entro... No, io qualche mese, perché mia figlia adesso non va più a scuola come tanti altri bambini. Ma le grandezze delle aule oppure fai a porta anche tu? Ma che c'entra? Io ho fatto il bidello 40 anni. E allora potrà tenere 25 bambini dentro, 25 ragazzi in quelle strutture fatiscenti. Ma che c'entra? Dove il personale non c'è. Ma che c'entra, Luigi? Non ho capito. Ma c'entra perché tu, appena hai iniziato la trasmissione, hai cominciato a prendere in giro, a incazzarti con la ministra che divide quello. Ma io non è che mi sono incazzato, quell'altro. Io ho detto semplicemente che un ministro non può dire, essendo e per poi correggersi e dire un'opinione. Non posso sostenere che a settembre ci saranno sicuramente le classi separate per metà a casa e per metà in classe. Ma chi lo dice? Ma chi lo decide? Il pomeriggio non lo puoi fare. Ma non lo so, perché Luigi, non c'è personale. Ma io ci ho lavorato, lo so. Tu come fai? Pancrazio da Messina. Andiamo avanti. Pancrazio. Eccolo qua. Eccolo qua. Studentello fuori corso, Parenzo. Ecco il legionario da Messina. Ecco il legionario. Penso che non si è neanche laureato nonostante il libricino nero che gli ha regalato suo padre. Ma suo padre non gli ha regalato nessun libricino nero, non si è laureato, c'è tanta gente non laureata. Insomma, legionario, che cazzo vuoi, Pancrazio? Dimmi. Non c'è più gusto in questa fase 2. Uno non può fare il legionario, ha fatto il legionario nella legione straniera. Manca Pancrazio. Solo il legionario. Pancrazio ha fatto il legionario nella legione straniera, ha ammazzato un sacco peccato, di gente. È pensionato. È pensionato. Non dalla... Ma perché peccato non ci sia rimasto? C'è rimasto, non ci c'è rimasto fino alla pensione. No, non si sa. Appunto, ho detto peccato non ci sia rimasto. Posso dire peccato non ci sia rimasto. Poi ognuno interpreta come vuole. Ho detto peccato non ci sia rimasto. Durante qualche missione? Ho detto solo peccato non ci sia rimasto. Ovunque egli fosse. Vedi come ci si usano provato, bene. Ci hanno provato. Peccato non ci t'hanno sia sparato. T'hanno sparato addosso, Pacrà. Quante volte? Tante volte. Ferite. Ma ne t'hanno hai? Sparato perché sei un cretino, non perché eri nella regione. Perché sei un cretino. Solo per quello t'hanno sparato. Lui, Pancrazio, qualche non sopporta. Marito cornuto t'avrà Pancrazio non sopporta sparato. Nell'ordine omosessuali, rom, neri, e poi che ci mettiamo? Zingari, rom, culattoni, travestiti culattoni e neri. Non sopporta queste persone, questi gruppi di persone non li sopporta, signor Pancrazio. Io non sopporto il legionario. Posso non sopportare il legionario? Era più divertente. A me sembra un mentecatto. Scusa, pure i carabinieri non sopporti, non ho capito. Sì, certo. No, Pancrazio, i carabinieri no. Questo non me lo sono puoi degli dire. Sbirri, sono degli idioti. No, ma non puoi dire sbirri idioti, carabinieri. Non mi fare incazzare. Ma come si permette? No, ma come l'arma, ti permetti? Ma come si permette? Hai fatto il legionario. Sono quelle delle barzellette. Ma come ti permetti di dire idioti e carabinieri? Dai, su, Pancrazio, dai. Ora si sentivano investiti di autorità, fermavano dei poveracci con le multe. Noi ci siamo... Ci siamo presi per il culo per tutto il periodo della quarantena. Ma chi? Tutti quanti, qua noi uscivamo, andavamo dove volevamo, avevamo i gruppi WhatsApp che segnalavano i posti di blocco. Comunque a Messina c'è un problema vero, a Messina c'è proprio un problema vero, c'è proprio un problema sulla città di Messina. E mi dispiace perché il mio bisnonno era messinese, quindi mi dispiace. Cioè tu dici tra il sindaco, tra il sindaco... Pancrazio, no, ma c'è anche Mauro da Messina. Ma vogliamo fare un confronto c'è una concentrazione di idioti rara. Vogliamo fare un confronto tra Mauro e Pancrazio? Dovrebbe fare un confronto tra Mauro e Messina, sono di Milazzo. Vabbè, insomma, quella zona lì. Cioè, un bello scontro tra Mauro da Messina e Pancrazio, signor Pancrazio. Ma io sono d'accordo con Mauro. È vero che siete sulle stesse posizioni, signor Mauro da Messina. Anche lui non vabbè, Pancrazio, che cazzo vuoi? Non ho capito perché. Forse potrebbe funzionare Pancrazio con il nostro amico Nustivo Gongo. Con spada di fuoco. Pure i carabinieri vigili e fare quello che voleva. Invece adesso dici si può uscire, si può. Forse no, funzionerebbe un confronto tra sto Pancrazio coglione e spada di fuoco. Questo funziona. Sì, questo sì, è Paco. Paco e il signor Pancrazio. Ciao Pancra, ciao. Siamo senegalese. Sì, senegalese. Sì, senegalese. Senegalese. Ne ho ammazzati pure di negri. Ma dove ne ammazzati? Ma come ti permetti, schifoso? Ma come ti permetti, maledetto schifoso? Come ti permetti? Sono stato anche in Africa. Ma è stato in Africa con la legione straniera? Ma come si fa a parlare così, schifoso, no, come sei altro? Là. Eh? Noi siamo a distanza fissi. Ma come si permette di parlare in questo modo di persone? Di essere ammazzato, come si permette? Era il suo mestiere ammazzare la gente, devi fare così. Eravamo soldati, che brutto persona. Era soldato, ammazzava quelli che tecnicamente chiama negri. Guadagnati, avresti chiama dovuto negri. Guadagnarti onestamente da vivere. Ma erano terroristi, anche Farenzo, erano terroristi. Sì, terroristi, vabbè, questo lo dicevate voi che erano terroristi. Vabbè, ciao Pancra. Ma noi erano terroristi. Ciao Pancra, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Allora, fra poco faremo una telefonata a Trieste al consigliere comunale. No, ma è incredibile. Come questo qui ha detto sparare neanche tu. Vabbè, ciao Pancra, ciao. Come ciao Pancra? Ciao Pancra. Ha detto delle cose agghiaccianti. Vabbè, dai, messo ciao Pancra. Come ciao Pancra? Ma che trasmissione è? Ciao Pancrazio, e si passa un'altra telefonata. Ma come si fa? Ho capito, ma che ha detto di strano? Io vado, che era nella legione straniera e ammazzava ciao i negri. Pancra. Ma sì, ammazzava i negri. Vabbè, grazie, ciao Pancra. Vabbè, grazie, salutalo e ringrazialo pure. Pure l'altro giorno mi hai mandato un messaggio quando ero da Del Debbio, che uno aveva detto un'enormità, Manada, il mitico Manada, sì, Rino, esatto, Manada. Esatto. Rino Manada, lo dobbiamo prendere, cazzo, mi sono scordato, Manada, quello, il ristoratore Manada, ristoratore lì, sì, tutto grasso, Conte un assassino, faceva. Conte un assassino, e tutti in studio zitti. A un certo punto Del Debbio, va bene, grazie, ma come grazie, ma che dite grazie, tutti zitti voi in studio, zitti, quello diceva Conte assassino, va bene, grazie, ma come grazie ragazzi. Comunque ragazzi, Fabio Tujak, consigliere comunale, molto di destra, molto cattolico, signor Tujak già a Trieste. Già condannato, se non sbaglio, non so, no? Per istigazione, so, all'odio, no, mi non pare non qualcosa. Lo so, adesso no, non sto a tenere non lì lo so, non il conto delle condanne in tribunale di Tujak, non lo so, non lo so. Ha detto, manutencolo della procura di Trieste. Lui cosa ha detto? Dire, ne ha sparato un'altra delle sue. Ha detto sostanzialmente che dovrebbero multare, proporrà in consiglio comunale la multa per le donne che si girano dall'altra parte, diciamo così, le donne che non la danno al marito, ecco. E anche l'uomo vuole multare, l'uomo che non scopa la moglie a letto, la moglie nel letto coniugale. La pensa così Tujak. Vabbè, chiamiamo, dai. Mamma. Fabio. Oh, ciao. Ma che è successo? Un altro casino hai fatto? Cioè quale? Ho letto, sempre casini. Cioè, mi attaccano sempre perché io cito la mia religione, che ormai non conosce più nessuno. Ho capito Fabio, però non si può dire questa cosa qua della multa alle mogli con il mal di testa. Cioè, che vuoi fare una mozione? Sì, allo stesso modo, però anche i mariti che si tirano indietro. Perché la nostra religione, a differenza di altre, la nostra religione c'è quella parità dei sessi, appunto. Sì, ho capito, dice, però non si può dare la multa. Aspetta, ho citato il Vangelo che dice: il corpo della moglie appartiene al marito e il corpo del marito appartiene alla moglie. Ma non ho capito, come si fa a multare l'uomo che c'ha la moglie che c'ha il mal di testa? Spiegami. Cioè, se la moglie non gli va di trombare, diciamo così, di fare l'amore con l'uomo, con l'uomo viene multata. Provo a vedere se si può fare. Cioè, non si può rifiutare, secondo me. Una donna non si può rifiutare. No, però allo stesso modo l'uomo non si può tirare indietro, D'accordo, ma chiaro, ho capito, ma ci potrà essere un principio di libertà ormai, o no? Ormai sono anche tanti uomini che si tirano indietro, sembra, guarda, vedo che sono messi male perché il 68 ha fatto parecchi danni, ha fatto più danni del comunismo il 68, ormai tutte e anche le famiglie sono divise. Anche i gay, forse. Sì, anche loro, effettivamente, anche perché prima non è che esistevano poi così tanto, anche cioè non è che erano un orgoglio. Anche gli idioti come quello che parla hanno fatto tanti danni. Anche oh, loro. Il solito, cavolo, Parenzo, come va, cavolo, mi mancavi, cavolo. Però scusami, sempre in circolazione sta questo qui. Ancora in circolazione, no. Sento delle la libertà di espressione è sacra. La libertà di espressione è sacra. La libertà di espressione. Io seguo la mia religione, no? Cioè, ma la religione non può essere quella imposta dallo Stato. La religione è una cosa. Io cito la mia religione. Poi non ho capito, si salverà quello che dice la religione, o non posso essere cattolico? Dai, dimmi, Parenzo, cosa bisogna essere tutti atei, comunisti come te. Ma che c'entrano i gay? Cosa c'entrano i gay, per esempio? Cosa c'entrano i gay? La nostra religione adesso, il Papa Emerito Benedetto XVI, sì, ha proprio qua, sì, ha detto ha ricordato appunto che appunto questa l'aborto, le nozze gay sono l'aborto, le unioni civili sono segni dell'anticristo, qua vale tutto, però come fai a dire che si salveranno in questa situazione forse dal coronavirus quelli che reciteranno il rosario? Non ho capito. Cioè, e quelli che hanno una sana attività sessuale. Ma no, quale sarebbe la buona attività, la sana attività sessuale secondo te? Cioè, secondo te una sana attività sessuale? L'attività sessuale è quella che fanno marito e moglie, che fanno figli, insomma. E la, per esempio, la sodomia? Cioè, il sesso anale? Quello non va bene, quello la nostra tradizione condanna parecchio. E tu non lo fai, dunque tu non lo pratichi praticamente? No. La masturbazione nemmeno, è da condannare, la masturbazione? No, non mi piace, una moglie, sono innamorato, faccio l'amore con lei. Capito, che c'entra, quando uno è innamorato non si può fare una sega, scusa, non ho capito Fabio. Mi sembra assurdo, mi sembra una follia, te la sarei fatta in vita tua una sega, no? Te la sarei fatta? Questo si è devastato. Forse da ragazzino, dopo mi sono confessato, dai. Questo da ragazzino si è devastato, si è ucciso praticamente. Dopo si cresce nella fede. Ma io non ho capito bene. Da ragazzino non era così. Dopo due uomini, io ho capito, ma due uomini che stanno insieme e si sostanzialmente si inculano, come si dice in senso tecnico. Cosa succede? Cioè, cosa accade? Cioè, nella tua testa, quando un'immagine del genere, cosa ti evoca? È una cosa sporca. Mi può fare schifo, no? Ma perché? Ma sono due uomini che si amano e si chiappettano tra di loro. Si amano. Si amano, però a me fa schifo pensare, cioè, vedere il cazzo che entra nel culo. E perché? Perché? Mi può fare schifo? Cioè, perché non mi deve fare schifo? Ma succede anche tra un uomo e una donna? Ma succede anche tra un uomo e una donna? Però a me fa schifo vedere due uomini così. Se lo fanno nella camera da letto, porte chiuse, non è un orgoglio. Ma lo fanno sempre, ma lo fanno sempre. È ancora consigliere comunale questo instabile qua? Questo instabile qua è ancora consigliere comunale, questo personaggio, sì, qua. Sì, ho fatto un record di voti, pensa te. Dopo sono uscito dalla Lega, superavo tutte, era così, no? Ero già un po' troppo cattolico, no? Non è detto. Ma l'adulterio, no? L'adulterio per te dovrebbe essere punito, l'adulterio? Ma una volta era punito, ma adesso ormai le famiglie che sono unite sono poche. Tutti i danni che viviamo adesso, l'ho anche ricordato Benedetto XVI, partono proprio dal 68, che ha fatto più danni del comunismo. Beh, certo, certo. Quando sei caduto, certo, dal seggiolone, lascia dal 68. Certo, quando c'è. Lei è caduto. Sua eccellenza avrebbe risolto i problemi in maniera più degna, no? Questi problemi del coronavirus. Dovete ascoltare un po' cosa dice Benedetto XVI. No, sua eccellenza Mussolini, dico. Sua eccellenza Mussolini. Mussolini è stato veramente. Lo ammiro solo da un punto di vista religioso. Il fascismo, nel bene o nel male, era una teocrazia. Cioè, è stato, no? Un grande statista, secondo te, signor Mussolini? È stato un grande statista. Questo l'hanno detto tantissima gente, insomma. Anche sua eccellenza, capito, Parenzo? No? Sua eccellenza, signor, sua eccellenza. Sua eccellenza, manda i matti solo sentire la parola sua eccellenza. Io lo sento e faccio. No, vabbè, cioè, comunque è incredibile la cosa incredibile. Come Mussolini ce lo sogniamo, insomma, dopo c'è da inchinarsi. Ci sono uomini che politici che hanno difeso certi valori, però sinceramente già un ammirante adesso guardiamo con nostalgia. Però scusa, la cosa fondamentale mi sembra di capire è che tu vuoi multare la donna che non la dà all'uomo. Cioè, se una donna si rifiuta, ma allo stesso modo, ma non puoi multare una donna. Gli uomini che non danno le donne, perché sai che c'è anche tra le donne che hanno fame, ma sono gli uomini. Però fra marito e moglie è giusto che ma se uno non c'ha voglia, che dobbiamo fare? Se uno non c'ha voglia, non ho capito. Se uno non gli viene voglia, che facciamo? No, fra marito e moglie non è giusto che sia. Non no? È giusto che sia. Multiamoli, no, allora, multiamoli. Dai, perché non bisogna tirarsi indietro, bisogna stare insieme, fare tanti bambini, volersi bene. Vabbè, dopo, se si comincia a fare mal di testa, dopo. Ma pensa che divorzio è una cosa molto recente. Pensa che Almirante è stato l'ultimo a lottare contro il divorzio. Perché tu sei contro il divorzio pure. Tu sei anche contro il divorzio. Io sono in linea, guarda, perché sei contro il divorzio. Al fascismo non si torna più. Purtroppo non si torna più, ma te lo posso confermare, non si torna più. Insomma, ormai gli uomini hanno perso un pochino. Però voi il divorzio lo vuoi cancellare? Pure il divorzio. Ma, scusa, se Almirante è stato l'ultimo. Ma chi se ne frega di Almirante? A lottare contro il divorzio e l'aborto. Io sono contro il divorzio e l'aborto. Vabbè. Ciao Fabio, ciao, buonasera. Ciao. I'm a vampire. How'd you find her? Like a gunshot in a parking lot. No one heard. Improvvisamente siamo ripiombati nel Medioevo, caro Parenzo, con Fabio Tujak, consigliere comunale di Trieste. Due uomini che si inculano mi fanno schifo. Davide, anche sempre lì, grazie, Trieste, grazie, attenzione. Anche lì, grazie, grazie. Ma chi grazie? Non lo ringrazia. Davide da Trieste. Davide. Lo deve denunciare, pronto? Non ringraziare. Davide, no. Dimmi. Pronto, ciao Cruciani, è una vita che volevo chiamare, sono anch'io da Trieste, mi vergogno per quel consigliere comunale. Vabbè, allora. Meno male, grazie. Capita grazie. Che sono il nipote della Mariella da Trieste, il famoso, cosa mia nipote? È da una vita che volevo chiamare per mandare a fanculo. Ma possiamo risentirlo un attimo? Ha preso il master, mio nipote ha preso il master, esatto, possiamo risentirlo un attimo? Perché volevi chiamare? Non ho capito, per mandare a fare il culo. È una vita che volevo mandare a fanculo Parenzo, volevo veramente togliermi questo spirito. Ma che prove abbiamo che la adorata nonnina sia davvero la sua nonna? Chi ci garantisce questo? Guarda David, ovviamente al telefono cosa vuoi che ti dica? Ti dico che è così e basta. Non possiamo collegare anche la nonna? Chiamarla no, insieme, meglio di no, fare al momento nonna e no. Se poi vorrete magari ci sentiamo. No, e ma che volete? Ci abbiamo il numero, che cazzo ce ne frega? No, chiamiamo Mariella. No, l'ottima Mariella vi pare molto vicina alla Lega o sbaglio? Mi sembrava, all'epoca. Non no, era una sincera democratica democratica la signora. Ascolta, Tujak con te ha sbagliato, perché darti del Lazio e del comunista è come dare a me del Babbo Natale. Lazio comunista, sei tanto ricco e poi d'altronde sei di religione ebraica, è impossibile darti del Lazio comunista, ma ti prego. Ma che dice questo qua? Mi pare qua? Che questo master non abbia formato un cervello complesso. Ha detto che sono ateo, comunista, ebreo e ricco. Cioè ha usato quattro stereotipi. Ricco manco per niente, devo lavorare per vivere. I ricchi sono quelli che non hanno bisogno di lavorare e vivono a prescindere. Fermi Io tutti. Ho bisogno di lavorare per fermi vivere. Fermi tutti. La Zanzara. Mio nipote è stato in Inghilterra a fare il master. Cruz, meno male che c'è lui, l'unica persona che io apprezzo è proprio Cruz è Cruz, per sempre, forever. A Cambridge, ha capito? A Cambridge, basta. Sa cosa dice Oscar Giannino? Basta. Oh. Oh, durante questi due mesi di quarantena si è visto come tutti si sono ingegnati per lavorare di più. Addirittura lo spacciatore mi ha portato l'erba a casa, mai successo in 6 anni. Mi ha portato l'erba a casa, manco delivero. Trussardi, Polo Ralph Lauren, è tutta una marchetta. Siccome qui nessuno ha la bacchetta magica, tranne Rinaldi, che la sua bacchetta magica è uscire dall'Europa, stampare la lira e chi se ne frega, e poi vediamo quello che succede. A parte il signor Rinaldi. Caro Cruciani! Caro Rinaldi, come mi sei mancato? Guardi, era qualche vedete, giorno. Era qualche adesso giorno il governo che lei sostiene bene. Ha dato 0 euro, lo vede? No, le senta vede? Rinaldi. Sì, questo è euro, vede con la Gioconda. Vede, a lei perché ci abbiamo scritto non fa di fronte Giocondo. E voce, questo i soldi che hanno avuto gli italiani del dice. Governo che lei sostiene. Non le fa lo vede? Grazia. Zero. Io non sostengo euro, nessuno. Zero. Io cerco di essere una persona responsabile, lei è uno fascista e sa fare solo quello. Però sì. Tornando alla domanda, detto, alla domanda di Paolo, allora per esempio, lei è uno fascista. Che no, fascia? Non fascista, ha detto fascista. Scusate, lei non sa manco quello che dice, lei è una barzelletta vivente. Beh, lei guarda, lei basta guardarlo. E io sono realista. No, lei è uno fascista. Ma lei ha capito, sai l'italiano cos'è? Lei è uno a cui io piace sfasciare. Io da cittadina a me piace costruire e dare fiducia. Poi quando sarà un momento costruire. E la fiducia deve darla secondo ma me lei, sì, scusi, costruire quando esatto. Ha lavorato un giorno, un minuto nell'economia reale, non lo so dire che cosa lei. Ha costruito non se lo può immaginare lei. Fate andare un attimo da... scusate un attimo, vado velocemente. Ora, da un barista chiaro che si prende 20.000 euro a Bruxelles. Io non so un cazzo. Legate gli bada a questo. Non di parolacce a bombolo che ho fatto il voto. Ma il voto l'avete fatto voi, mica ho fatto io. È come se uno smette la fumare e tu gli fumi in faccia a bomboleno, lo devi fare, eh? E che cazzo mi fai capito? A Rinaldi! Bisognerebbe fargli a Rinaldi e dargli una sberla così. Bam, a Rinaldi! Povera Fusani, però io guarda, ho tanto, voglio esprimere solidarietà alla Fusani, che ma si perché? Trova a doversi confrontare ogni volta del debbio con tal Cruciani, con il povero, con quel pagliaccio di Rinaldi. Ma manca solo la donna coi baffi e la donna cannone. Che cazzo manca lì? C'è la Fusani, la donna cannone, la donna coi baffi, il nano, Rinaldi e Cruciani. Questo è il cast. Ma vai, culo, vai. Questa roba qua. Che allora, cazzo mi hai capito? Gianni da Roma, vai Gianni. Pronto? Sì, vai Gianni, dimmi. Cruciani. Vai. Allora, oggi è il mio compleanno e anche il compleanno bene. Di Rocco Siffredi, fagli la telefonata. Oggi è il compleanno di Rocco, sì. Il compleanno di Rocco, gli ho mandato un messaggio, adesso mi risponderà. Sì, benissimo. Ok, vorrei soltanto entrare nel merito di una trasmissione di ieri sera di Giletti, al quale vanno i miei complimenti, perché è una persona molto coraggiosa per quello che esprime e per la faccia che mette. Io sono indignato di essere pronto, sì. Mi senti? Ti sento, vai. Ci siamo. Ah, no, io sono indignato per per quel problema grave che è successo della scarcerazione dei boss mafiosi, e vorrei chiedere una cosa, un'informazione da te. È possibile farli rientrare in carcere in Oxi, i carabinieri, amici miei? Andrebbero lì a prenderli con le orecchie e portarli nelle carceri di Viterbo, di Roma e di Parma, laddove ci fossero posti liberi. Questi non ha diritto, per la memoria del grande generale dalla Chiesa e del grande Paolo Borsellino. Non ho capito, Gianni, tu sei incazzato per che cosa? Cioè sei incazzato no, per... io sono incazzato per questo governo di merda, questo Bonafede, anzi Malafede, che dovrebbe, bravo, che sì. dovrebbe dimettersi, come si è dimesso il capo del DAP. Come ma si per è che dimesso... cosa? Per la scarcerazione dei esatto, boss? Esatto, per la scarcerazione dei boss, e io te lo dico. Non è la scarcerazione, sono andati ai domiciliari, non è che, no, non è che sono liberi e belli di fare il cazzo che vogliono. Comunque è uno scandalo, è una vergogna, per carità. Ma questi ritorneranno mai in carcere? Ma sì, certo che ritorneranno. Ma quando ritorneranno? Chi lo dice? Ma se chi tu, poi parla Parenzo, che è d'accordo con la scarcerazione, è sempre stato d'accordo no, con la scarcerazione modo, di questi, boss, è sempre no, stato d'accordo. Sempre stato dei d'accordo. Boss in alcun modo. Io anzi ho posto all'inizio del coronavirus il problema, non solo in Italia, prima è stato Luigi Manconi, il problema uno dei bambini in carcere che sono detenuti ma con che le loro c'entra? Madri che Gianni sono detenute. Sta dicendo un'altra cosa, e Gianni. Il problema del sovraffollamento delle carceri rispetto al Covid. Le scarcerazioni dei mafiosi sono tutta un'altra cosa su cui non ho mai detto nulla, perché reputo vergognoso quello che è successo. Brutto imbecille, non mi accusare di cose che non ho detto. Chi è questo mentecatto che parla? Gianni non da Roma, si permetta. Io me ne fotto di Gianni da Roma. Io non ho detto che sono d'accordo con le scarcerazioni dei mafiosi. Si vergogni, Gianni da Roma, vada a farsi fottere. Non ho mai detto nulla di tutto questo. Ma state zitti, non ho mai sostenuto questa cosa. Perché? Vergognatevi. Gianni, perché accusarmi del nulla? Gianni, vergognatevi. Gianni, perché hai attaccato Parenzo? Spiegami perché. Non ho sentito prima. Hai attaccato Parenzo. Vergognatevi. Non ho mai sostenuto nulla di tutto questo. Non mi mettete in bocca cose Cruciani, che non ho detto. Io ho parlato con te. Io con Parenzo non ho parlato. No, ma lo hai accusato in maniera chiara. Lo hai accusato di aver sostenuto. Non ho mai detto niente sui i boss. Non dovevano uscire dal carcere. No, perché mi devi mettere in bocca parole che non ho messo, che non ho detto? Adesso stai ritrattando. Non ho detto nulla su questo. Io ho detto il governo, ma il governo non è Parenzo, perdonami. Il governo è Bonafede, il governo è il ministro Bonafede, che sono bravo, d'accordo bravo, con lei, si bravo, deve dimettere, perché bravo, il DAP dipende da lui, vabbè, ha sbagliato bravo, e si deve dimettere. Io Parenzo. Ho detto che dal carcere dovevano uscire i bambini che sono detenuti con bravo, le loro madri dentro il carcere. Controlleremo quello che hai detto, Gianni. No, allora come volevi no, no, assolutamente io dico Parenzo come questa sera non ma ho, sei no, incazzato no, fino a dove? Sei incazzato fino a quanto no, sei incazzato? Io sono incazzato perché ho dei forti dubbi Guarda, forse esagero, ma questo Stato di oggi e questo governo che domina la situazione, anzi non la domina affatto, il governo è incapace, siccome siamo poveri, il denaro non c'è. Ma che c'entra adesso con la questione dei mafiosi? Che c'entra? Sta facendo uscire questi scarcerati, perché questi poi a loro volta dovranno dare con lo strozzinaggio e l'usura a questa povera gente dei piccoli centri. Ma che c'entra? Ieri, questi escono, non è che vanno ai domiciliari. E Giletti, attenzione, Giletti ieri ha fatto vedere un servizio che questi vivono nelle piccole o grandi ville che hanno, i cancelli, e sono e facilmente sono avvicinabili dai piccoli del paese, e che poi questi passano i pizzini e cominciano la mafia, cominciano la delinquenza. Signori, datevi da fare, facciamo una petizione, perché questi devono crepare in carcere per quello che hanno commesso. Ciao Gianni, ciao. Spatalo, lo lancio, spatalo, spatalino all'attacco, vai. Noi abbiamo qui un tale Giuseppe Conte messo lì all'ultimo momento, preso dal mazzo, da uno studio, e adesso sta facendo il padre eterno, non è stato eletto da nessuno. Dunque? Comanda lui, ha avvocato sei poteri. Questo è un golpe, un colpo. Golpe, sì, tu. Poi? Task Force, si lavano la bocca. E loro sono dotti, sono istruiti con la Task Force. Un'altra infornata l'altro giorno, altri 30-40. Tutti scienziati, pagati profumatamente il nulla. Vergognatevi. Knock, knock, knock. Senti come cresce, Seguitemi, non vi distraete, perché quello che sto per dire è gravissimo. Tu devi dare l'esempio. Invece sono i primi a comportarsi violando la legge. Allora comincerei con Zingaretti. La persona più vicina a Zingaretti è stato pizzicato, per fortuna ogni tanto un po' di verità, un po' di giustizia, con le mani nella marmellata a fare una grigliata. Ecco, io se fossi Zingaretti metterei la mia faccia nel water. Oppure non vuoi metterla nel water? Allora chiedi scusa pubblicamente, convoca conferenza stampa e di: mi vergogno del mio braccio destro. E invece niente, loro coprono. Emanuele, provincia di Udine, vai Emanuele, vai. Sì, pronto, buonasera Cruciani. Dimmi. Aspetta che sono la prima volta, sono piccato. Vai. Allora, volevo dire, io lavoro nella ristorazione, no? Sono 18 anni che lavoro. Sì. Bene. E ho sempre votato a sinistra. Il massimo della destra che ho votato sono stati i radicali, sono antipopulista, Meloni, Salvini, quelle robe lì, per me sono tutte puttanate. Però, tana la troia. Farci aprire al primo di giugno, ok, siamo stati bravi, siamo stati buoni, io non ho rotto i coglioni a nessuno, ho taciuto, sto aspettando ancora i soldi della cassa integrazione in deroga e mi va benissimo e sto zitto. Però quando si apre, non si rompe i coglioni, plexiglass, mascherine, guanti, cassi, massi, ravani, preservativi, detergenti per il buco del culo. Non si può rompere i coglioni alla gente che lavora, perché lei, le faccio una domanda, o le faccio una domanda, no, lei ha ragione, aspetta. Che li voglio un sacco di bene, Parenzo. Fallo finire. Io mi trovo spesso e volentieri d'accordo. Vai, chiudi. Lei andrebbe in un ristorante con un cazzo di plexiglass, con un cazzo di cameriere che arriva da lei con la cazzo di mascherina, con i cazzo di guanti, con i cazzo di distanza di sicurezza di 2 metri, che non puoi cazzo di lavorare perché non ci abbiamo aspetta. Fallo finire. Pazienza. Adesso noi, io le parlo da dipendente, io ho 2 datori di lavoro giovani che hanno avuto il coglione di fare gli imprenditori in questo paese di merda dal punto di vista del lavoro, perché in questo paese fare imprenditoria, e glielo dico da uomo di sinistra, fare imprenditoria vuol dire essere eroi, eroi, eroi, cazzo, perché non c'è nessuna agevolazione per chi lavora, agevolazioni solo per chi cianza. Oggi il mio datore di lavoro ha telefonato alla banca per i 25.000 euro di prestito e il direttore della banca voleva fargli appianare con questi 25.000 euro di prestito, voleva fargli appianare i 17.000 che già hanno. Allora, ha capito qual è il giochino? Allora, è possibile che questa cosa continui a essere, continui ad andare avanti, continui a essere così la cosa? E dire, dovete fare dei sacrifici. Abbiamo fatto i sacrifici. No, ma poi adesso soprattutto, Emanuele, posso dirti una cosa? La realtà è molto semplice. Se uno deve aprire in questo modo, la gente non ci andrà. No, per cui... ma teniamo chiuso, ci conviene. No, distinguiamo. 800-900 euro di cassa integrazione. Distinguiamo le cose che hai detto, alcune giustissime e sacrosante. Distinguiamo. Allora. Andrei in un ristorante il primo giugno, io andrò al ristorante. Ma dove perché vai? Non vedo perché l'ora di tornare. Perché lei andrò, è un atto di aiuto. Ma non solo. No, ma no, sì, anche, ma non solo, perché adoro quella socialità lì. Non ci può essere come dicono loro. Avere il plexiglass no, ma avere il cameriere con la mascherina, ad esempio, e io stesso entrare e avere la mascherina, non mentre mangio perché è impossibile, con la mascherina e tenere le distanze di sicurezza con gli altri tavoli può essere una dimensione che mi fa sentire più sicuro. Sì, e io andrò al ristorante. Se lei di mezzo capito, il posto a sedere e dopo può essere solo in una prima fase, poi si troverà le fa pagare a luglio. Ma vanno sospese, che gli incassi, le tasse vanno sospese, sono state sospese. Ciao, quindi Emanuele. Incassili momentaneamente. Ciao Emanuele, ciao. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800-939-939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. La Zanzara. Che cazzo mi fai capire? Da tutte le parti c'è prostituzione, alberghi, hotel, bed and breakfast, eccetera, è pieno, quindi qui si può esercitare la prostituzione come meglio si vuole. Mettiamo il divieto che non si può esercitare prostituzione nelle strade, punto e basta, non ci rompete i coglioni. Oh. Se pensano per 40 immigrati clandestini su nave, ma fammi il piacere, vai, immigrati. Devono pensare che anche a 80.000 prostitute. Ma che sta dicendo? Ma lei apre bocca e gli dà fiato. Ma cerchi di riflettere. Vuole fare la prostituta, la fa a casa sua e non ci rompe i coglioni. Mi piace i cazzi, mi piace che mi sbattono i cazzi in faccia, mi piace prendere i cazzi e io mi piace godere, mi piace che io lavoravo su un tavolino e mi prendevano a destra, a sinistra, sopra, sotto. Ma quanto sono eccitanti le donne con la mascherina, hanno quel qualcosa di trasgressivo che mi fa eccitare di brutto. Giorno 52 di astinenza. Liberatevi! Mi becco a gruppi di due o di tre persone che siete lì abbracciati romanticamente. Ah no? Multa. Quindi ci andate? Andateci da sole, per cortesia. Per ora la pesca romantica non è consentita. Va bene? Non sono consentiti baci, non sono consentiti abbracci, non è consentito fare altro. Per ora dobbiamo, da questo punto di vista, essere astinenza al cubo. Per intenderci, guai chi viola l'ordine dell'astinenza. Ci siamo capiti? Perfetto. Quindi anche da questo punto di vista si va a pescare da soli. E anche a casa, attenti, bisogna stare distanti di almeno un metro anche a letto, visto che il mio socio non ha avuto il coraggio di dirvelo, ve lo dico io, ve lo dico io una volta per tutte, fino al 31 ottobre astinenza. In questo è consentita l'apertura dei cimiteri. Mi metto il rubinetto del bidet nel culo e mi faccio la vaginale. Allora ragazzi, grande Susanna. Ecco, questo come dimenticare? Forse è un po' eccessivo, allora, secondo me. No, dimentichiamo. Allora dico una cosa, oggi alcune persone sono potute uscire eccetera eccetera, mi scrivono sull'internet, mi sentivo brutta con i peli sull'inguine. Cioè i peli della figa mi erano cresciuti tanto all'inguine. Io ho detto, amica mia, ma come brutta? Ma è una cosa straordinaria. Cioè è un dono straordinario. Cioè, e poi mi ha scritto anche peli tra l'altro scuri. Ancora meglio. Ma chi è che scrive ancora... queste cose? Ma chi è che scrive? Come chi è che scrive? Un sacco di persone scrivono sull'internet rivolgendosi a me. È normale da che esperto della materia, soprattutto di conformazione. Cioè, ma come cazzo si fa a pensare a vedere una cosa brutta quando è la realtà, quando è la verità, quando è la natura? Potrei farti un trattato su cos'è la natura, cosa non è la natura, no. Quanto la natura, no, deve essere. No, non mi dire, no, di no, se no dico di sì. No. Non mi, no, dire di no, se no insisto. No. Non mi dire che, no, non lo devo fare, se no insisto. No. Guarda che insisto, guarda, no, che lo faccio. No. Guarda che, no, lo faccio. No. Ogni tanto, no, quando ogni tanto, quando straborda un po' il pelo, quando straborda, è segno di vitalità, è segno di esistenza in vita. Però purtroppo abbiamo di fronte che cosa? I giovani che amano il liscio. È incredibile questa cosa qua. I giovani, ragazzi, 25, 27, 30, 35, amano il liscio. Non solo loro, però nella stragrande maggioranza amano la pelle liscia. La figa tutta rasata. Come cazzo si fa, io dico? Mai tutta rasata. Mai. Altrimenti sembra uguale. E sembra... sembra una roba comune, sembrano tutte uguali. L'altra cosa, la sporgenza, c'è altra cosa che mi scrivono, la sporgenza delle labbra, no? Cioè, ma cosa c'è anche là? Perché questa fissazione della perfezione? Questa fissazione della... No, ma è un'altra cosa incredibile, un problema che mi pongono. Ah, mi devo far togliere la sporgenza delle grandi labbra. No! No! Giuseppe, no! Qua dalla regia siamo per il partito del pelo. Curato, ma del pelo. Esatto, ma curato, poi curato. Pensavo fosse una persona normale. E invece le labbra sporgenti apprezzate? La regia apprezza... Belle, sì, carno, apprezzano, apprezzano. In questo momento, Giuseppe, guarda, veramente vale tutto. Dici, vale tutto. Vabbè, non esageriamo, vale impazziti. Vabbè, ragazzi, detto questo, direi di chiamare l'ingegner Negri. Ingegner Negri, che è impazzito. È in argomento. Ingegner Negri, Carlo Negri, che vuole fare una battaglia contro le mascherine, contro di noi, contro la reclusione che non c'è più. Per andare a fare la pipì, se no, non mi dispiace. Che pipì? No, ma no, ma devi parlare con Negri. Ma no, devi parlare. Ma che cazzo? Devo fare la pipì? No, ma devi parlare con Negri. Fermo là. Vediamo, intanto vado a fare la pipì. No. Pronto? Ingegnere? Sì. Come va, ingegnere? Che cos'è sta battaglia che vuoi fare contro le mascherine? Che roba è? Le mascherine sono dannose. La mascherina non serve, è inutile, anche perché portarla fuori con il nuovo DPCM, naturalmente, che è illegale. Oggi la mascherina non è obbligatorio portarla fuori. Portare la mascherina vuol dire assecondare il partito unico dominante in questo momento, vuol dire accettare tutte le balle che hanno raccontato sul coronavirus, ingegnere, e accettare il canale unico dominante, ingegnere, accettare ma quale sarebbe la balla? La balla quale sarebbe? Tutte le balle che sono state raccontate fino adesso. E la palla quale perché sarebbe? Noi sappiamo esattamente che questo coronavirus ha una mortalità inferiore rispetto all'influenza. Addirittura, ma guarda i morti che ci sono stati in alcune poi, località. Per quanto riguarda il fatto della mascherina, è perfettamente inutile, perché tanto se c'è un virus passerebbe lo stesso, non serve a niente la mascherina. Ma hai detto che ci sono noi dei criminali? Hai detto che ci sono... guardata con la mascherina, perché secondo voi... andare a passeggiare a 30 gradi in riva al mare con la mascherina. Oggi io sono stato al mare, c'era la gente che passeggiava in riva al mare con la mascherina.

è la peggiore dittatura nella storia dell'uomo. Avete preso in giro, l'ha detto anche Sabino, certo, Cassese. Neanche nelle peggiori dittature si impedisce alla gente di uscire. Ma stai dicendo che si sono inventati i morti, ingegnere? I morti, sì, sì, sì, perché c'è praticamente il fatto. Allora, il discorso dei morti l'hanno detto loro, ma che non è i morti sono per coronavirus. Ma sia serio, non si renda ridicolo, mi fa una domanda, non si renda ridicolo. È chiaro? Non allora, si renda ridicolo. Mi fa rispondere, no? Chiudo. Non mi deve parlare sopra. Ridicolo. Non si renda ridicolo oltremodo. Basta. Basta. Zitto, ingegnere, stai zitto. La zanzara. Senti, scusa, io non voglio contestare quello che hai fatto in questa trasmissione, io manco la conoscevo in realtà. Io ti ho chiamato perché la tua trasmissione, io lo, ieri l'ho sentita per 2 ore, mi avete fatto letteralmente cagare. Va bene, dai, saluto l'amico mio Manuele che lavora a Cedrini. Se ne frega, cude un amico mio, io che te devo salutare a te, saluto un amico mio. Ho denunciato Conte, non so se ha letto comunicato stampa. Pure tu hai denunciato Conte. Io ho denunciato Conte perché sono 60 giorni e sto a casa. Allora, buongiorno. Sono Giampiero, sono giunte voci che io ho fatto questo gesto estremo per farmi pubblicità. Tra l'altro ieri mi è stato anche detto che ho fatto questa cosa perché i vigili urbani mi avevano fatto una multa perché io stavo facendo i pranzi da sporto. Allora, queste cose non sono vere. Se questo figlio di puttana ha detto queste cose, me le deve venire a dire in faccia, no che si inventa queste stupidaggini di merda. Io ho fatto questa cosa per tutti quanti voi e per tutta la nostra categoria. Mo' m'avete rotti i coglioni, a me non mi parlate più, non mi cercate proprio più. Ok, perché io sono Giampiero Panzini e di pubblicità non ne ho bisogno, ok? Ma avete rotto i coglioni tutti quanti. La pubblicità io me la sbatto i coglioni. Ho denunciato Conte, non so se ha letto comunicato stampa. Pure tu hai denunciato Conte. Io ho denunciato Conte perché sono 60 giorni e sto a casa. Davide dalla provincia di Roma, avanti tutta, vai, vai, vai. Giuseppe, so che non ami le premesse, ma questa l'apprezzerai. Appena hai parlato del pelo della figa, sì, la mia ragazza mi ha detto: allora, se vede la mia, si innamora. Perché amico com'è? Mio, com'è? C'hai i ricciolini, amico mio, amore. Ma che vuol dire ricciolini? Sta lì accanto a te? Sì, sta qui accanto a me, te la passo, eccola. Passamela, grazie, sì. Mamma mia, mancava anche questo. Tesoro, come ti chiami? Ciao Giuseppe. Come ti chiami? Fabiana. Fabiana, allora cosa vuol dire ricciolini? Perché Davide ci ha detto che hai ricciolini, cioè proprio no, il... Beh, no. Esagerato, eh. No, però ma i ricciolini significa che non c'è solamente la peluria, diciamo, piccola peluria, mamma, ma c'è proprio il pelo, il pelo che a un certo punto... No, vabbè, ma giuro, esagerato. No, ti mando la foto. Ma perché mandi la foto? Sta zitto. No, no, è esagerato. Però senti, io sono una muslimista di quelle foto che ama, ama il pelo. Non sì, gli piace la rasata. Quindi per me, io sono d'accordissimo con te, amico mio. No, scusami, scusami, restiamo su Fabiano un attimo di questa grande inchiesta. Senti ispettore Derrick, senti ispettore Derrick. No, no, 2 secondi ti trattengo, boh, non ti preoccupare, non ti metto nei guai, non ti faccio scandalizzare. No, no, no, però voglio dire, tu praticamente la depilazione quando la fai esattamente? Mamma mia. Ma ogni 2 settimane. Sì, ma come la fai naturalmente? Solamente sul bordo, sull'inguine, no? In modo che non strabordi, però lasci... integro il grosso, diciamo, il grosso del prato, sì, o sbaglio? Vabbè, un po', un pochino accorcio anche per una questione di igiene, perché ovviamente no, e lì ti sbagli poco, che vuol dire concretamente? Fammi capire. E come te lo misuro? No, ma voglio dire, si imbarazza, ma non accorcia. No. Cioè, ma che razza di cosa? Scusami, puoi misurare? Scusami, Davide, ecco, hai lì quel metro, i metri quelli classici di cuoio, un attimo. Voglio misurare. No, voglio misurare esattamente il punto massimo. Metti un attimo di mangiare i frigitelli, metti un attimo lì un secondo, apri un attimo la situazione, cioè nel senso comodo. Ma io dico c'è una famiglia italiana a tavola che sta mangiando. Decide questa famiglia italiana di telefonare alla Zanzara. Aspetta. E il fidanzato si mette a misurare il pelo della suddetta fidanzata in diretta radiofonica. Aspetta. Io dico solo aiuto. Scusami, Davide. Siamo finiti. No, Davide sta facendo un'operazione che è per capire esattamente se la peluria della fidanzata Fabiana è una peluria consistente oppure no. Allora, prima cosa da misurare è questa. Allora, l'ultimo pelo della parte sinistra, tu sei di fronte, giusto? Sei di fronte alla figlia della tua ragazza. L'ultimo pelo, l'ultimo lembo di pelo della parte sinistra. Okay. E l'ultimo pelo della parte destra, quanto misura? Cioè, quella è importante, perché se è una misura. Allora, non è una figura di merda, amore. Figura di merda? No, ma figuriamoci: 6 centimetri sinistra, 6 centimetri, amico mio! No, cioè 6 centimetri da una parte all'altra? Non ho capito, aspetta. 6 centimetri da una parte all'altra, nel punto massimo di espansione. Questo no, che come 6 centimetri sinistra? Partendo da sinistra. Come fa a tenere il telefono in mano e anche il metro? Ma facesse mettere il metro alla finanziaria? Allora, dall'ultimo lembo di pelo della parte sinistra, quello più lontano, dall'apertura, fessura. L'ultimo lembo di pelo dalla sinistra a destra, amico mio, non è difficile. Cioè, sostanzialmente la figa è misurata in larghezza. Eccolo. Vai, 7 centimetri. Come non è vero, cioè 7 centimetri, voglio dire, non è che lo dico io, sta scritto sul metro. Ma 7 centimetri, amico mio, in diretta radiofonica. E la parte invece, scusami, la parte che va dall'estremità dell'entrata, della vagina, all'ultimo lembo di pelo sopra, quanto pelo c'è tra la parte, finale, quella, dove poi uno penetra, fino al pube. Nella parte alta, adesso i termini tecnici non mi vengono, però quanto pelo c'è sopra? Monte di Venere si chiama. Quanto pelo c'è sopra? Allora, sopra misuro un 4 centimetri, quindi sui 4 lati... Tanta roba, amore mio, per questo mi sono innamorato! 4 centimetri è tantissima roba sopra, 4 centimetri sopra è tanta roba. Cioè significa che c'è il pelo consistente. Ultima cosa, poi lascio. Siamo sicuri che sei di fronte alla figa di Fabiana? Sì. Amico mio, la videochiamata non si può fare. No, tu sei davanti alla figlia della tua fidanzata. Allora, benissimo. Sì, allora, sento il profumo. Sento la voce un po' lontana, non è che mi stai ingannando. Però voglio capire, siamo sul centimetro di altezza del pelo, cioè dell'erba, del praticello? Abbiamo il centimetro? Sia di più, è come un centimetro. Dice, scusa, falla stendere un attimo, falla stendere. Gli dici un attimo, ti mette vergogna, sta a mangiare. Aspetta, non mangiare mentre sto a misurare. È un'immagine bruttissima. Sto a misurare il pelo della figa mentre sta a mangiare. O seduta, oppure ferma, oppure dritta. Ecco, voglio capire. L'altezza del praticello. Cioè. L'altezza del praticello, quant'è? Cioè tu dici da sotto fino a sopra, fino all'ultimo lembo di pelo. Sì, no, da sotto. Quanto è alto il pelo vero e proprio? Cioè, è consistente oppure è di quelli che si attaccano alla pelle e quasi non si notano? Oppure c'è No, è folto. Perciò ti ho detto, io per questo intendevo ricciolino. Allora, come misura stiamo sui 6 centimetri da sopra a sotto. Beh, quello abbiamo detto. Parenzo, per favore, pensa un attimo alle cose tue. Allora, 6 centimetri. La consistenza te l'ho detto, tesoro. Balsamo Pantene proprio. Ma come non è vero, amore? I riccioli, dunque siamo sul centimetro sicuramente, sul centimetro di praticello. E colore? Colore? Colore no, sul nero scuro, nero, guarda com'è bella che commenta lei, nero ci nero tiene, scuro, amore, c'è la picchiacca di ebano. Mamma mia, che spettacolo, hai ragione, ti invidio moltissimo, ti abbraccio, ciao. Italiani? Quello lo dico io, italiani.

ragazzi, che emozione, ragazzi. Che emozione, che emozione. Ha cacciato pure un urlo, eh. Ha cacciato pure un urlo, dice. Non male, non male. Si vede che è rinato. Sì, Rinato, non ho mai però capito, adesso riascoltando questa poesia, non ho mai capito il significato di questa canzone. Cioè, ci sono questi nani sulle rive di un fiume. Che vabbè, dire? Ma che vuoi stare? No, ma poi chiedo, dai, ma su. Chiedo. Ma Stefano da dire? Milano, dai, Ezio da Torino, anzi, Ezio da Torino, vai Ezio. Cazzo. Dimmi Ezio. Io sono un mito assoluto tuo. Dimmi, dimmi, dimmi. Del pelo assoluto, ragazzi, che devi fare? Ezio, siamo in un mondo che è cambiato, un mondo che si trasforma, un mondo che purtroppo ama il Monte di Venere, la figa glabra, glabra il petto ma di pollo. Io, ascoltami, Scrucciani. Io sono anni che ti ascolto, sì. Continui a parlare di pelo, di pelo, di pelo. Io ma non cambia la cultura, vorrei cambiare la cultura di questo paese. Io vado fuori strada. In che senso vai fuori strada? Non ho capito. Quando sono in macchina, che sono al lavoro e senti parlare di pelo, senti parlare di pelo. Ma io vado fuori strada, lo so, amico mio, dovremmo parlare quasi sempre di queste cose qua. Purtroppo Parenzo me lo impedisce. Questo è un grave problema. Parenzo me lo impedisce. Ascolta, a Parenzo fallo stare zitto. Tu parla di pelo, che è una cosa meraviglioso. Ecco, ma cosa ti pare? Mi pare che accada, sì, pare che questo accada. Non mi pare ci sia alcuna censura, non mi pare. Scusa, Ezio, perché ti appassiona così tanto questo argomento? Cioè, qual è, che cos'è che ti fa arrapare di una donna col pelo? E invece perché cosa non succede ne quando vista una, ma non è maniaco. Io non so se a te, a Cruciani, ti piace il pelo sotto le ascelle. Ah, moltissimo, mamma mia, moltissimo. Beh, a me mi fa arrapare. Se non c'è a il pelo sotto, a me. Scusami. A me fa arrapare, sì, d'accordo, ma non è un problema. Ho capito, però adesso il pelo sulla scella si può anche soprassedere. A me mi fa. Ma lascialo parlare come vuole, Ezio. No, adesso fai la lezioncina, fai il professorino con Ezio, dai, su. Cioè, su quello si può anche soprassedere. Però se c'è, come dire, non è che lo butto via, non si butta. Io lo adoro, io lo adoro. Beh, perché l'adoro. Cosa ci fai con sto pelo sotto la scella? Guardarlo solamente o perché ma ci vuoi anche giocare? Lo adoro proprio. Secondo te Parenzo questo qua è un maiale, questo Ezio? No, spiegami. No, no, vorrei capire da Parenzo se Ezio è un maiale, cioè se lui definisce assoluto, Ezio totale, un maiale. Mamma mia, ragazzi, un maiale totale. Riconnettiti un attimo, che voglio un giudizio finale di Parenzo su Ezio. Riconnettiti con questo minchia di coso che hai, perché si sarà staccato prima, sicuramente avrà fatto qualche minchiata, e perché questo è il punto. Ezio, non ho capito, tu odori e poi che fai? Odori e leggo. Pure il pelo ha votato lei alle ultime elezioni? Mi scusi, per chi ha votato lei alle ultime elezioni? Forza Italia, sempre Berlusconi. Grazie, non ho altre domande. Ma che c'entra? Grazie. Adesso cosa c'entra? Grazie. No, per carità. Addirittura lecchi anche l'ascella un po', anche se vuoi, anche sporca, anche sudata o no? Non importa, no, anzi, più è sudata, più è bella. Amico mio, qui siamo arrivati. E lei mi conferma che ha sempre votato Forza Italia, sempre. Sempre. 24 anni. Non ho altre domande. Anni. Italiani! Grazie. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. A me non mi servono i consigli.